così di maggior approfondimento. Insomma, Cagni è professore di storia della tecnica e della scienza. Della scienza e della tecnica. Della scienza della tecnica all'Università di Genova. È sempre l'osservatorio dello spirito. Sì. È sempre l'osservatorio dello spirito. Ma direi che importa qui per il fatto di essere probabilmente il maggior stimolatore, insomma, a livello organizzativo, sì. A livello di proposte, insomma, no, di iniziative in quel settore in Italia, forse non solo in Italia. Infatti è presidente di questa strana cosa che non mi ricordo mai di preciso come si chiama. Direttore, non presidente, io direttore, c'è tutta un'altra cosa. Del Centro per la Storia della Tecnica del CNR. Ecco. No, ma dicevo no, di quella cosa internazionale. Ah, Licote, sì. Ecco, quindi, cioè, voglio dire, questa cosa perché è importante per noi, per il nostro istituto e così via? Perché questo istituto ha l'ambizione di introdurre, insomma, di inserire anche questa problematica, questo settore della conoscenza storica, che è quello relativo appunto alla tecnica e alla scienza, tra i suoi campi di attenzione, mirando a una ipotesi di interferenza fra diversi tipi di storiografia in campo costituzionale, in campo appunto scientifico e poi nel campo del, diciamo così, della mentalità, della storia della mentalità, ambizione che in qualche modo trova il suo riflesso in quella rivista che noi pubblichiamo, che sono gli annali dell'istituto, appunto, di cui è uscito da pochi, da un mese, il terzo volume. È un'ambizione che così rischia di sconfinare in quell'utopia che è la storia globale. In realtà quel che ci interessa a noi è più che altro cercare di, se è possibile, mettere in luce più meglio che si può il diciamo così, il tasso di rilevanza sociale che i diversi aspetti dell'attività umana hanno avuto, soprattutto nell'Occidente moderno europeo, insomma. In questo contesto, naturalmente, la storia della tecnica e della scienza, come Mancani non avrà esitazione a ribadire continuamente, è forse la meno organizzata, insomma, quella che finora ha avuto meno occasioni di acquisire, insomma, un livello istituzionale sufficiente. Non c'è una cattedra in tutta Italia di storia della tecnica e della scienza, tanto per dire, insomma, di storia del pensiero scientifico, insomma, di storia della scienza, tanto per dire il livello, mentre ci sono, per quel che riguarda, non so, una materia così stupida come quella che insegno io, storia delle politiche, credo ormai una quindicina o forse più di cattedre, no? Ecco, questo dà il senso. Allora, la presenza di Maccagni è particolarmente importante nel senso che potrebbe servire a mettere un tassello in più dentro il nostro istituto, la nostra esperienza, proprio in questo settore che è il meno coltivato. Concludo ringraziando anche il professor Olmi e il dottor Mazzolini, grazie ai quali, tutto sommato, questo aspetto, ecco, della conoscenza storica trova qui e poi anche in facoltà di sociologia l'occasione di svilupparsi un momentino. Ecco, scusatemi per questa piccola cosa, ma ci tenevo a dire che non è occasionale la presenza di Maccagni, tanto che, come lui è già venuto altre volte in passato, spero che in futuro possa tornare, che si possa stabilire un contatto effettivamente frequente, insomma, che garantisca una serietà di sviluppo di questa attenzione, E quindi ti do la parola. Volentieri. Grazie. Io ringrazio, sono io che ringrazio di aver avuto occasione di venire qui. Prima, in altri momenti, per avviare un'iniziativa che se va in porto sarà una grossa cosa nel campo della storia della scienza italiana, proprio in quella direzione di avere un italicano, un scrittore di cui si parlava all'università. E poi perché da tanto tempo così sono diventato un po' il propagandista, il viaggiatore, il venditore viaggiante della storia della scienza e della storia della tecnica, che è forse ancora più trascurata della storia della scienza. Quindi poi ringrazio quelli che sono venuti, resistendo alle tentazioni di andarsene a sciare dopo una settimana di lavoro, eccetera, e spero che da quello che cercherò di mettere assieme, che saranno più che altro dei problemi, vengano anche per me dei chiarimenti, perché soprattutto è il livello della disciplina, è un po' il fatto che io non sono mai riuscito a fare il metodologo o il filosofo della storia della scienza e della storia della tecnica, le cose che vengo esponendo sono delle riflessioni personali sul lavoro che vado facendo e sui lavori che stiamo facendo soprattutto al Centro per la Storia della Tecnica di Genova, con un gruppetto molto ridotto di persone, così vive in questo mondo completamente al di fuori di quello che sono gli interessi più generalmente diffusi. Quindi io spero molto anche nella discussione che verrà dopo, per cui vorrei proprio che quello che dico, anche perché sarà come fare abbastanza confuso con dei richiami, dei rimandi, dei riferimenti, eccetera, quindi sia proprio un'introduzione a questa discussione, non una, come dire, una bella orazione, un'esibizione oratoria, un discorso, ecco, più che altro forse una perorazione da parte di quelli che fanno non professione di storici della scienza e della tecnica, ma che sono su altri versanti, a tenere un occhio anche su questi aspetti, perché non credo che dall'interno della storia della scienza e della tecnica si possa fare tutto. Anzi, specialmente in questi momenti in cui si comincia anche a riflettere su queste discipline, c'è il grosso problema che altri che hanno maggiore esperienza, perché lavorano in campi di tradizione più antica, in sostanza siano in grado di evitare a noi di ripetere, non dico gli errori, ma le esperienze che non hanno avuto esito, le esperienze sono sempre tutto sommato positive, in modo che insomma ci faccia presto ad arrivare ad un certo livello medio e accettabile di status scientifico di quello che facciamo. Il titolo, se non vado errato, era Tecniche e tecnologie del periodo e tecnologia del periodo rinascimentale, ecco perché il problema era soprattutto sul tecnologia. Il periodo rinascimentale è ovviamente un'astrazione, almeno per quello che riguarda lo storico della tecnica e lo storico della scienza, anche se di solito il rinascimento va associato con la cosiddetta rivoluzione scientifica. Io non credo alle rivoluzioni, perché di solito se si fa la storia con particolare attenzione si vede come le radici vadano molto lontano e gli sviluppi si estendano ancora molto più in là, e soprattutto si ha l'idea, io penso, di rivoluzione quando le nostre conoscenze sono incomplete, anche nella fase sincrona, non soltanto nella ricerca diacronica, ma anche nella fase sincrona noi abbiamo l'impressione dei grandi stravolgimenti, soprattutto se noi continuiamo a fare una storia, questo è uno dei motivi su cui vorrei particolarmente insistere, una storia di eroi, di geni, di grandi personaggi. In questo modo noi perdiamo tutte le connessioni, tutto il tessuto che ha permesso a questi grandi personaggi, non toglie nulla a loro, della loro grandezza, il fatto che altri abbiano avuto gli stessi problemi, se li siano posti nello stesso modo, ma anzi rende più chiaro come sia potuto esistere, che so, Leonardo da Vinci, perché sia potuto esistere e abbia fatto quello che ha fatto Galileo. Finora questo studio dei rapporti dell'ambiente, diciamo, dello strato medio, non soltanto delle punte, di quello che noi andiamo esaminando, è uno studio che è completamente mancato. Le ragioni sono quelle che ricerche di questo genere sono scarsamente sviluppate, oppure dove dà l'impressione di essere esistito, è di solito esistito ed è presente per altre ragioni. Diciamo con tutta chiarezza che lo studio del periodo rinascimentale è stato sviluppato quasi esclusivamente per quello che riguarda la storia dell'arte, la storia della letteratura, e forse anche la storia in generale, ma anche su questo ho dei dubbi. La situazione storiografica è anche tale per cui quando noi pensiamo al Rinascimento inevitabilmente pensiamo a Firenze, pensiamo alla Toscana. Questa è così una delle leggende che noi continuiamo a tramandarci, non in virtù di fatti accertati, ma in virtù del fatto puro e semplice che altre zone culturali italiane che possono avere interesse per farsi capire questo periodo non sono mai state studiate. Mi riferisco in particolare agli stessi periodi, per lo stesso periodo del cosiddetto Rinascimento toscano, alla cultura dell'Italia settentrionale, mi riferisco in particolare al Rinascimento romano, di cui si è fatto praticamente soltanto la storia delle arti belle, mi riferisco anche ad alcuni fatti particolarmente interessanti dell'Italia meridionale, Napoli in particolare, e addirittura anche la Sicilia. Per quel che riguarda la storia della scienza, Giovan Battista Odierna e personaggi di questo genere sono dei risultati incredibili di luoghi della cui storia noi non sappiamo nulla. Quindi risolviamo normalmente la posizione specifica di questi prodotti anomali dicendo così che sono dei geni che stranamente in quel posto a un certo punto si trova un signore che conosceva tutta la matematica greca. E poi si va a vedere, a Messina c'è l'insegnamento del greco dagli inizi del 400, c'era una delle biblioteche più importanti di testi greci, quella del San Salvatore, e così via. Quindi se noi approfondiamo questo tipo di discorso, vediamo che la solita motivazione del genio dell'individuo che esce così come una specie di scherzo benevolo di natura è invece il risultato di tutta una serie di situazioni. Situazioni che non vanno considerate in forma deterministica, su questo penso che tutti si sia d'accordo e che così si possa far grazia di non starla a discutere. Ora, il campo della storia della scienza è un campo poco coltivato, dicevo. Meno coltivato ancora per questo periodo è quello della storia della tecnica. Di solito parliamo di storia della tecnica del periodo medievale perché ormai davanti al mostro sacro di Bloch, proprio ieri gli amici dell'istituto mi facevano le fotocopie del primissimo articolo di Bloch sul mulino a acqua nelle annali del 1935, che è anche la data che segna così la nascita formale, diciamo, della storia della tecnica intesa in senso moderno, con poche paginette di Lucien Febvre in apertura del fascicolo delle annali. Quindi tutto sommato la disciplina che andiamo a considerare è poco più che quarantenne, quasi, è un po' più giovane di me, quindi ecco, ci sono queste affinità. C'è solo che lei è nata immediatamente cosciente, mentre io no, forse non lo sono nemmeno ancora adesso. Il lavoro di Bloch, che ha per il peso dello storico e per la bellezza intrinseca del lavoro, ha finito col diffondere anche un discorso particolare per cui in realtà prima della rivoluzione industriale, un'altra rivoluzione, potrebbe meno cambiare nome a un certo punto, è meglio cambiare nome a un certo momento, non c'è stato nulla se non a partire dal 1200, da questa rinascita medievale del 1200-1300. Io non voglio fare delle rivendicazioni per il periodo rinascimentale perché è quello che mi piace di più, quello a cui dedico la maggior parte del mio tempo. Ma io credo che ci sia una catena continua, e in qualche cosa cercheremo di vederlo anche attraverso le difficoltà che presentano questo tipo di discorsi, che partendo dall'epoca medievale, che indubbiamente ha un suo peso e un suo senso, arriva agevolmente e sotto certi aspetti condiziona anche la stessa rivoluzione industriale. Ho parlato di tecniche e al plurale di tecnologia al singolare perché almeno se noi intendiamo per tecnologia una specie di riflessione cosciente sull'applicazione della tecnica, tutto sommato un discorso valido e analitico per le varie tecniche si può trovare soltanto a partire appunto dall'epoca della rivoluzione industriale. Ciò che possiamo chiamare tecnologia per il periodo precedente è casomai non tanto la riflessione sulle varie discipline quanto il tentativo di passare alla codificazione delle procedure delle varie discipline, anche con una certa intelligenza e un certo senso critico, e al tentativo di esprimere questa stessa tecnologia al di fuori di quelle che sono le forme tradizionali e di insegnamento e di apprendimento delle tecniche, che è la forma classica dell'apprendistato, che non è stata soppiantata del tutto nemmeno dalla rivoluzione industriale. Quindi le tecniche saranno le varie tecniche possibili e sono infinite. La tecnologia di questo periodo sarà il tentativo di produrre una sistemazione razionale, quindi non uno studio critico, non una generalizzazione, non un'applicazione di determinati principi in senso perfettamente cosciente, se vogliamo, mettendolo tra virgolette scientifico del contenuto tecnologico, ma semplicemente il tentativo di evadere dalla struttura dell'apprendistato e arrivare a quella dell'esposizione, della diffusione attraverso per esempio le opere a stampa. A me pare che questo salto sia importante perché rappresenta anche in questo specifico settore la fine delle strutture medievali. Direi che quando noi arriviamo intorno agli anni 1540, quando il Piccol Passo prepara i 3 libri dell'arte del vasaio, che sono circolati manoscritti, ma che poi sono stampati soltanto nell'Ottocento, ma ebbero una discreta circolazione, almeno a quanto pare, quando Biringuccio pubblica la pirotecnia, quando Agricola pubblica il De Re Metallica, quando Giovan Ventura Rosetti pubblica il Plitto dell'arte dei tintori, quando, se vogliamo andare però più in là, una 70 d'anni per quanto riguarda la stampa, comincia a uscire per esempio l'arte vetraria del Neri, siamo agli inizi del 600, ecco, in questo momento io credo che effettivamente, per quello che riguarda la struttura delle arti, sia cambiato del tutto, delle arti applicate ovviamente alle tecniche, sia cambiata completamente, sia scomparsa la mentalità medievale legata alle strutture rigide. È scomparsa, ripeto, la mentalità, vorrei precisare questo, mentre rimangono ancora le strutture rigide, ovviamente, di carattere professionistico, e qui tutti quanti le conosciamo per quanto riguarda la produzione del vetro, la tessitura, le beghe fra Venezia, Parigi, Piemonte, l'Inghilterra e così via, e d'altronde l'esistenza dei privilegi, l'esistenza dei brevetti, eccetera, eccetera, non è altro che la continuazione di questo tipo di atteggiamento che dai secoli più lontani è arrivata fino ad oggi. La conoscenza che noi possiamo avere delle tecniche del periodo medievale è una conoscenza che possiamo in modo molto grossolano dividere in due parti, un discorso che facevo all'università, quindi mi scuso con quelli che hanno avuto la pazienza di sentirmi già per 2 giorni che queste cose tornano fuori anche qui, se no erano discorsi generali e qui c'è il tentativo di passare dal generale al particolare. La divisione è allora quella fra fonti scritte e fonti non scritte. Vorrei aggiungere in certi casi, e non stupiamoci, addirittura fonti orali, anche se il caso può sembrare strano e anomalo. Le fonti scritte sono fonti documentarie di carattere generale e vedremo poi quali ne sono le caratteristiche. Sono i testi che abbiano un carattere compiuto. Per limitarci al discorso, ricordiamo quelli citati prima, il Piccol Passo, Agricola, la pirotecnia di Biringuccio e così via. Un altro tipo di documentazione che è del tutto trascurata e che merita invece di essere attentamente ricercata, coltivata e approfondita sono i libri di bottega di questi tecnologi del periodo rinascimentale. I libri di bottega del tecnologo del periodo rinascimentale è l'analogo del libro del mercante. È il libro dove sono segnati i fatti economici della piccola impresa, di solito familiare, non si va più in là di tanto, dove sono segnate le ricette, dove sono tracciati gli schizzi di quanto l'artigiano va costruendo, dove ci sono i ricordi degli eventi domestici o anche degli eventi pubblici o anche degli eventi naturali, dove c'è la citazione, la testimonianza dei prestiti e così via. Esempio sciaguratamente noto di questo tipo di materiale è la produzione di Leonardo da Vinci. Leonardo è sciaguratamente noto perché ha voluto dire il pensare che le uniche documentazioni che si debbano cercare sono quelli che presentano interesse per le belle arti. Allora, il risultato è stato che chi aveva la mano felice e faceva anche il pittore, per chi ci sapeva fare, è stato in qualche modo recuperato. Allora, Leonardo ovviamente in testa, Francesco Di Giorgio Martini, Filarete, e poi basta. Ora, la popolazione degli artigiani, in una ricerca che stiamo facendo per Genova con una popolazione di 40.000 abitanti circa tra la metà del 400 e gli inizi del 500, presenta una popolazione di artigiani di quasi 12.000 persone, cioè in pratica tutti facevano qualcosa, in ogni nucleo familiare si può dire c'era un qualcuno che si interessava di queste vicende. Questi artigiani che costituiscono un tessuto connettivo e direi uno strato sociale di estrema importanza per capire che cosa avviene in quel mondo, sono completamente trascurati e completamente ignorati. Quelli che non hanno lasciato il codice con i disegni belli, quelli che non hanno avuto la fortuna di interessare lo storico dell'arte, il quale di solito è anche abbastanza miope in queste cose, o che non hanno avuto la fortuna... Sì, sì, ma forse spero di no, insomma, ecco. No, no, spero che non ci sia, ma... Che lui non sia mio. Spero che non sia mio. Cioè, talvolta però ci sono dei fatti anche strani che denotano questo tipo di atteggiamento, no? Ghiberti è famoso. Suo nipote, Bonaccorso Ghiberti, che era una bestia, che disegnava malissimo, siccome si chiamava Ghiberti, ha avuto l'onore di essere studiato. Gli altri che non avevano parenti illustri, non ci sono figli di Leonardo come noto, nemmeno di Michelangelo, cioè c'era Michelangelo già ma non ha lasciato documentazione di questo genere, e sono stati praticamente completamente trascurati. L'altro aspetto per cui talvolta qualcuno di questi non illustri disegnatori e pittori è stato studiato è perché si sono dedicati all'architettura. Comunque ricadiamo sempre nel discorso delle belle arti. Ancora ieri, nella stanza lì accanto, mi si faceva vedere l'ennesimo libro su Francesco Di Giorgio Martini, se non vado errato, è Francesco Di Giorgio Martini, ecco, dove che cosa si pubblicava? Non si pubblicavano quegli studi che sono anche notevoli, disegni e illustrazioni delle ferriere, eccetera, dell'operosità umana, si rifaceva la storia delle fortificazioni, no? Come se un promis non bastasse, cito soltanto quelli che ricordo, Maltese qualcun altro, per cui i soliti disegnini vengono ripetuti, ripubblicati, e così con una insistenza che è veramente incredibile, cioè, fa il paio con le edizioni dei poeti, no? Che sta nel periodo rinascimentale. 50 edizioni di questi, non esiste ancora un'edizione, per esempio, decente degli scritti di Leonardo da Vinci, ricordiamo, disegni sì, tutti pubblicati, no? Ci sono le belle cartelle nell'edizione nazionale di Leonardo da Vinci, pubblicati i disegni, cioè nel 1936, se non vado errato, la mentalità era ancora quella del Leone che con le forbici ha fatto il codice atlantico. È per questo che dicevo che i storici d'arte sono miopi, non per altre ragioni. Quindi una delle cose che noi dobbiamo fare anzitutto e che il nostro piccolo noi stiamo cercando di fare è di capire questo strato sociale che chiamiamo così degli artigiani, che vuoi chiamarli ingegneri, può complicare le cose, vuol dire col nome portare dietro dei concetti che non hanno diritto di cittadinanza in quel periodo. Quindi cercare di capire questo strato sociale, vedendone per esempio la formazione, vedendo qual è la cultura dell'artigiano, su questo poi potremo anche parlare, e ancora cercare di recuperare tutte queste testimonianze. I manoscritti, per il periodo di cui io mi occupo, in sostanza fine del 300, 400, in prima metà del 500, io ce n'ho almeno una quarantina di schedati, e voglio dire che sappiamo benissimo quali siano le condizioni dei fondi manoscritti di molte biblioteche, sappiamo benissimo le scoperte che si fanno andando a cercare una cosa poi trovandone un'altra perché il titolo è rimasto quello che c'era nel catalogo del 700 quando le categorie bibliografiche e biblioteconomiche erano completamente diverse da quelle di oggi. Quindi questo per sottolineare l'importanza del libro di note, perché il libro di note è anche un libro di famiglia. Io ho studiato con tanto affetto e con tanta pazienza da molti anni la famiglia dei Della Volpaia, citata all'inizio dell'articolo di Olmi, Camillo di Della Volpaia, come ho visto ieri sera sfogliando un po' sommato il fascicolo degli annali. Questa famiglia di artigiani comincia la propria attività a Firenze intorno agli anni 1480. Si chiamano Della Volpaia perché vengono dalla Volpaia, che è una, oggi sono due case con una chiesa e un pozzo in mezzo alla piazza, nella zona del Chianti, e si trasferiscono a Firenze. Il fondatore è indicato come legnaiuolo, in realtà nel 1484 costruisce l'orologio dei pianeti, che è una delle meraviglie di questo periodo, che è posto in Palazzo Vecchio, che dà il nome alla sala dell'orologio, che c'è così come è chiamata ancora oggi, in Palazzo Vecchio a Firenze, ed è il capostipite di una dinastia di fabbricanti di strumenti astronomici, alcuni molto belli. C'è anche un cartografo, Eufrosino, che sono, forse perché gli altri conoscono Leonardo, io conosco bene questi qui, quindi ogni tanto ho il dubbio di fare per i Della Volpaia quello che gli altri hanno fatto per Leonardo, cioè di metterli sul piedestallo e di considerarli paradigmatici. Però direi, ecco, quando faccio questo lavoro tengo sempre presente che ci sono anche gli altri, anche se può sembrare che in realtà questo non succeda. È che attraverso di questi possiamo avere una certa continuità per lo sviluppo della famiglia. Hanno lasciato tre manoscritti che vanno appunto dagli anni della fine del 400 fino agli inizi del 600, quando la famiglia si estingue. Hanno fabbricato orologi meccanici, orologi solari, strumenti scientifici. Girando per il mondo sono riuscito a mettere assieme ancora una quarantina di strumenti scientifici che sopravvivono, alcuni molto belli, altri meno belli. Naturalmente non c'è nessun orologio, perché questi sono andati tutti distrutti, come capita per tutti i prodotti di meccanica un po' fine, mentre ci sono salvati quegli strumenti scientifici che hanno un aspetto più grossolano. Ora, se noi esaminiamo questi tre manoscritti che ci rimangono, e vediamo proprio come nella stessa pagina ci siano presenti le varie generazioni. Si comincia di solito con un'annotazione scritta in mercantesca della fine del 400. Si continua con altre annotazioni e magari un disegno, uno schema di orologio. La prima annotazione dice fatto per esempio per Francesco di Agostino del convento dell'Annunziata di Genova, Cicavai Scudi 5. Questa è la notazione, diciamo, tipica. Segue la mano cinquecentesca, dove dice quella di 48 si può fare meglio con due da 24, cioè la ruota da 48 denti si può sostituire agevolmente con altre due ruote, ovviamente che mantengono la stessa riduzione, di 24 denti. Ripeto, ho presente particolarmente questa pagina perché è proprio un campionario di tutte le scritture. Eufrosino, che è quello più istruito, quello che fa anche il cartografo, che disegna una bellissima carta dell'agro romano per il Papa, sulla quale sono stati delimitati i confini delle cacce pontificie fare fino al 1700, dice è grossolano. Questo qui, che è il più raffinato della famiglia, è grossolano. L'ultimo, che Girolamo di Camillo, annota non s'usa più, e siamo ormai in una scrittura inclinata, molto grossolana, tipica della fine del 500 e degli inizi del 600. Una pagina di questo genere per lo storico della tecnica è la chiave per capire tutta una serie di evoluzioni anche nello stesso schema dell'orologio. Si parte con l'orologio a pesi, e diciamo costruito con un numero limitato di ruote, solito 4, 5 cominciava già a essere raffinato. Il secondo momento rappresenta l'esigenza di maggiore precisione nella produzione di questo strumento, e c'è l'annotazione, la ruota di 48 si può essere sostituita con altre due ruote di 24. Ricordiamoci che l'orologio a pesi è una macchina meravigliosa nella quale c'è, direi, al di là dell'inventiva di tante generazioni che hanno portato al prodotto finito, c'è la sapienza dell'artigiano, perché l'orologio funziona correttamente soprattutto in quanto si riesce a stabilire un rapporto fra i pesi e gli attriti del meccanismo. Il regolatore del movimento ha una sua funzione, però in realtà il gioco effettivo, concreto, sul quale si sviluppa tutto il movimento dell'orologio e la precisione dell'orologio, è difficile tarare l'orologio a pesi piccolo. Si può tarare il Big Bang aggiungendo le vecchie monete sopra i pesi. L'orologio piccolo è una cosa abbastanza limitata, una difficilissima taratura, anche perché se si modifica il peso poi può succedere che, cambiando il tempo e dall'umido passando all'asciutto, quello si metta a ritardare di nuovo come faceva prima, quindi sia necessario aumentare il peso stesso. Quindi in realtà l'orologio è ogni orologio è un prodotto unico che sorge al di là di quello che è lo schema puramente costruttivo, da quella sensibilità, possiamo dire, che l'artigiano ha nel trattare il materiale che adopera. Qui non vorrei dare nel filosofico, però questi temi spesso offrono anche una serie di riflessioni che talvolta hanno il parallelo con quelle che fanno i cultori dell'estetica, cioè il rapporto di chi lavora con la materia che lavora, come le caratteristiche fisiche, diciamo così, della materia stessa condizionino le tecniche di produzione, condizionino lo stesso prodotto. Costruzione delle ruote, la costruzione degli stessi strumenti scientifici subisce una trasformazione incredibile a partire dal 500, diventano enormemente più diffusi, 400 anzi, scusate, diventano enormemente più diffusi quando si introduce nell'uso corrente della produzione dei metalli il laminatoio. La lastra prima veniva ottenuta per martellamento e era quello che era, insomma. È facile immaginare che a colpi di martello si può anche essere bravi, ma per ottenere una lastra che sia perfetta per martellamento ci vuole, che so, 50 volte, 100 volte più di tempo di quanto non occorra per avere una lastra passabilmente uniforme ottenuta semplicemente inserendo una bandella di metallo in mezzo a due rulli. Quindi questo è un discorso che io non tocco, però dovremmo, quando siamo di fronte a un prodotto tecnologico, dovremmo sempre tenerlo presente. E spessissimo quelle che sembrano soluzioni ottenute e trovate per razionalità, direi, sono invece imposte dalla natura stessa del materiale a disposizione o comunque del materiale impiegato. Allora, torniamo alla nostra pagina che ci può dare un'idea dei suggerimenti che vengono. Quindi, la seconda indicazione delle due ruote ci precisa che in quel momento l'orologio a 4 o anche almeno deve essere, l'orologio a 4 è ormai decaduto, non è più accettato come buon prodotto, cioè la tecnica orologiaria ha capito che appunto dovendosi giocare sopra gli attriti è bene aumentare il numero delle ruote in modo da non avere delle grandi ruote con grandi attriti difficili da governare. Ricordiamo il sistema di correzione, per quello che dà una martellatina sui punti dove erano imperniate le ruote, questo è il sistema per migliorare gli attriti, oppure forzare la parte leggermente la parte dell'incastellatura in modo da rendere più larghi i punti di appoggio e quindi ridurre in sostanza l'attrito. Stranamente non sono usati quasi mai, almeno non se ne fa mai cenno, l'uso di lubrificanti per modificare questo tipo di situazioni, che erano comunque noti per esempio per provocare scivolamenti di masse pesanti in tempi antichissimi. La terza osservazione che cosa riguardava? È un frusino che dice che è brutto. Beh, io qui mi rivolgo agli storici dell'arte, siamo alla seconda metà del Cinquecento, direi che gloriosamente possiamo dire che andiamo verso una raffinatezza di forme che prelude forse al manierismo, non lo so, perché è un settore che non... E cominciano a comparire negli strumenti scientifici e anche negli strumenti di uso comune delle parti ornamentali molto, così, molto particolarmente vistose. Non c'è rubinetto che non sia bocca di leone, e qui c'era stata invece una fase di, come dire, di riduzione all'essenziale, specialmente nel campo tecnico, nel periodo che va proprio dal passaggio tra Medioevo e Rinascimento. Nell'epoca del 400 almeno i disegni di macchine sono scarsamente ornati, in epoca medievale invece l'ornamentazione è sempre presente. Ricordiamo però, non so, il Tarquino di Virae Donne Cur, c'è sempre questa ricerca del gesto, al quale ovviamente anche questo tipo di scrittura figurata, che è tipica del mondo gotico, questo caratteristico gusto gotico per l'ornato, dà una certa sua particolare impronta. E proprio dal passaggio, da questo gusto particolare dell'ornato a un tratto più essenziale, direi, è un elemento di distinzione abbastanza netta fra la tecnologia, non tecnica, del mondo gotico e la tecnologia del mondo rinascimentale. Cioè si comincia a vedere, a capire, a cogliere, a porre in risalto quello che è l'elemento essenziale nel disegno. Vedremo che un discorso del genere verrà fuori ad esempio con Galileo, se poi ci arriviamo. Dunque, questa lettura indica in questo momento stiamo tornando a un'altra forma di ornamentazione. Io ho qui questo libro, che è buono perché senza portare dietro tanti testi introvabili ci sono delle figure. È pubblicato dal Keller riguardo all'illustrazione dei libri di macchine. Non so, queste chiavi, queste specie di chiavi inglese sono tutte, hanno le loro brave foglie d'acanto tutte le volte che c'è un innesto, hanno il pomello in fondo tutto lavorato e inciso come le matte degli elettori una volta, e così via. Cioè l'ornamentazione diventa un elemento, torna a essere in questa situazione per la presentazione per il pubblico, un elemento essenziale del disegno tecnico. Nella fase precedente questo tipo di discorso invece è in parte scomparso. L'ultima annotazione, spero di non averne saltato, dice non si usa più. Non si usa più, che cosa significa? Significa che l'orologio appesi, il piccolo orologio appesi, è stato soppiantato dall'orologio a molla. Quindi quella che sembrava una pagina banale, con un brutto disegno, perché uno schema d'orologio è di solito costituito da 4-5 cerchi sovrapposti uno all'altro con dei numeri a margine che segnano il numero dei denti, non c'è altro, non si fa altro, diventa una chiave per riuscire a capire l'evoluzione di uno strumento di estrema importanza com'è appunto l'orologio. Ci siamo fermati un momento su questa famiglia, vorrei quindi porre in risalto alcune cose che caratterizzano la documentazione scritta nel campo della storia della tecnica. Ed è l'estrema importanza che ha la parte iconografica sulla parte grafica. Si può fare a meno delle spiegazioni e delle annotazioni, che di solito infatti confondono, non spiegano, però bisogna salvare il disegno. Io direi che già all'inizio, già in questi, come dire, incunaboli del manuale tecnico moderno, il fatto iconografico, discorso vale anche per le scienze, olmi docet, il fatto iconografico supera la parte scritta, la parte discorsiva. Possiamo anche dire che il tecnico ha più confidenza con il disegno, sia pure un disegno, diciamo, primo riconosciuto brutalmente tecnico, che non con con la scrittura. Questo per quanto riguarda la documentazione scritta. La documentazione scritta ci apre un altro modo di vedere questo tipo, questo strato sociale del mondo artigiano. I testi della fine del 300, di tutto il 400, in parte anche degli inizi del 500, ripeto, sono tutti scritti in mercantesca. La mercantesca è la scrittura che si apprende nelle botteghe d'abaco. E qui possiamo ampliare il nostro discorso da quello che è il mondo dei tecnici a qualche cosa che sta attorno a loro. La mercantesca è tipica di questo mondo. Anche tutti gli artisti, ricordiamocelo, scrivono in mercantesca. Primo testo datato di Leonardo da Vinci, il Dì di Santa Maria della Neve dell'anno 72 mi pare, è scritto in perfetta mercantesca, speculare, perché scriveva a rovescio, però è una mercantesca perfetta. Stiamo a discutere sull'origine della mercantesca, comunque anche qui bisogna aprire una parentesi e dire che i nostri bravi paleografi non hanno mai trovato il tempo di occuparsi di questo tipo di scrittura. Ci sono due articolini, uno dell'Orlandelli pubblicato in una miscellanea e un qualche accenno nei manuali, così, perché gli archivi poi tutto sommato sono pieni anche di documenti di carattere economico, di carattere interessanti anche sotto l'aspetto storico scritti con questa scrittura. E però, avendo la sfortuna di non aver afferito i filoni letterari, è completamente trascurato. Il solito discorso del quello che ha scritto il sonetto lo mettiamo, lo inseriamo nel dizionario della Crusca, e così via, quello che ha scritto dei testi di estremo interesse per la storia della tecnica o anche per la storia della scienza, non ce lo mettiamo. È ancora tutta una scrittura da scoprire, anche nella sua genesi, probabilmente deriva da notarile dell'epoca tarda, eccetera. Io ho dei dubbi andando a vedere anche varie altre questioni. Comunque c'è questa scrittura ed è una caratteristica permanente del mondo artigiano. Ricordiamoci che l'artigiano però ha sempre la voglia di evadere da questo suo mondo, e ci sono degli esempi illustri dell'artigiano che scrive in mercantesca, quindi dell'artigiano, l'artista in questo caso, che scrive in mercantesca, che si avvicina al mondo dei signori, dove vivono quei dotti umanisti che hanno imparato il latino e quindi non scrivono in mercantesca ma scrivono in corsiva umanistica, e allora c'è uno sforzo di imitazione per avvicinare la propria scrittura a quell'altra. Quindi c'è, vediamo anche questa specie di ansia di passaggio da una categoria, quella stessa degli artisti che noi dopo tanta storiografia romantica abbiamo messo sul piedestallo e che invece allora erano poco più, poco meno che degli artigiani. Ricordiamo il grande Leonardo, che era già stato a Milano, che era tornato da Milano, che era già stato con il Duca Valentino, grande ingegnere, riverito, eccetera, eccetera, quando il periodo a Firenze, dal 1503 al 1506, e per una somma di legna da ardere, va a dipingere la mostra del convento di San Donato a Scopeto, delle monache di San Donato a Scopeto, cioè in sostanza che andava a fare il bianchino, diciamolo pure con molta chiarezza, perché è andato lì, si è pitturato di bianco la mostra dell'orologio, poi ci hanno fatto brave cifre, in numeri romani, gli orologi antichi, se vi capita di vederli, sono quelli che hanno il 9 scritto con quattro astine in verticale e non per sottrazione. Quando li vedete per sottrazione, sono i 14, di solito, almeno in quella parte, falsi. Vabbè, quindi, noi abbiamo, scusate queste divagazioni, noi abbiamo la possibilità di arrivare a individuare con questa scrittura il tipo di formazione che l'artigiano o l'artista ha avuto. È venuto dalle scuole d'Abaco. Le scuole d'Abaco sono delle istituzioni note in parte, alcune anche qui come al solito, per Firenze, poco note altre di altre zone che comunque ci sono, anzi in qualche caso addirittura diventano delle istituzioni pubbliche. Ricordiamo le scuole, la scuola di Rialto a Venezia, in pratica non è altro che un potenziamento di una scuola d'Abaco, come insegna anche Pacioli, Paolo Dalla Pergola, eccetera, per non far nomi. A Firenze questa istituzione esiste da tempo. Uno dei più importanti, per dire anche qual era il livello di coloro che ci insegnavano, e una delle più note, dato il personaggio, è quella a Santa Trinita di Paolo Dal Pozzo Toscanelli. Non sto a spendere parole su Paolo Dal Pozzo Toscanelli, tutti sappiamo quale importanza scientifica abbia avuto lui in questo periodo, non il Cusano come di solito si dice, di cui lui non aveva nessuna stima. Quindi ci sono anche tutti questi vecchi miti che andranno un bel momento accertati e visti sulla base del livello scientifico. La scuola d'Abaco insegnava a leggere, scrivere e far di conto. Leggere, scrivere e far di conto non a livello sostanzialmente elementare, ma a un livello anche abbastanza elevato. In sostanza chi usciva dalla scuola d'Abaco aveva la formazione per la parte matematica più o meno corrispondente a quella che può avere un ragioniere di un istituto un po' scalcinato. Naturalmente tolta la matematica attuariale, roba di questo genere, che allora non era ancora praticata. Abbiamo i programmi di alcune di queste scuole, anche questo una cosa di cui non si è mai occupato nessuno, o quasi, costituiscono una fase di preparazione per la borghesia e per la sottoborghesia. Sottoborghesia vorrei dire, se possibile, adoperare queste categorie per le quali bisognerebbe sempre prima fare una premessa di alcune pagine, intendo proprio lo strato da cui di solito provengono e nel quale si muovono gli artigiani. Alcune scuole d'Abaco poi si differenziano e si specializzano, mi pare di poter dedurre questa, quei quattro volumoni del Verde dedicati allo studio di Firenze, perché si vede che della gente esce dalla scuola d'Abaco a 17-18 anni e poi si iscrive all'università. È chiaro che non è la scuola d'Abaco dalla quale va il ragazzino prima di passare alla seconda fase della sua formazione, che è quella dell'apprendistato. Su questa storia dell'apprendistato direi che sostanzialmente non sappiamo, anche qui sappiamo anche qui molto poco. Io mi sono imbarcato, siccome sono sempre disordinato, a trattare questo problema, mentre prima avrei dovuto finire il discorso per quello che riguarda la documentazione non scritta, ma lo vedremo casomai dopo. La questione dell'apprendistato è essenziale come tipo di trasmissione della cultura, di quelle culture nelle quali ci sia una componente manuale, la cui descrizione, anche se, come dire, aiutata dall'iconografia, certamente non permette un apprendimento efficace. L'apprendistato avviene per gradi, ci sono anche dei livelli abbastanza ben stabiliti, e l'accesso, per esempio, agli strati più alti, dove si conoscono effettivamente i segreti di bottega, è una cosa alla quale non tutti possono arrivare. C'è soltanto il maestro, anche gli altri sono chiamati maestri, chiamiamolo in confidenza il gran maestro, che conosce il segreto definitivo, il tocco magico che caratterizza il prodotto di una bottega. E proprio ieri se ne parlava con Schiera, e quando c'era lui che stava male, si fermava la produzione. Il rischio della diffusione del segreto non si voleva correre. Ora, questo tipo di struttura, e torno al discorso che facevo all'inizio, è quello che viene proprio messo in crisi da quei libri a stampa di cui avevamo fatto cenno prima, e che si differenziano profondamente dal libro di note che è destinato a restare in famiglia. In quella pagina famosa dove ci sono le annotazioni di 4-5 generazioni, vuol dire che quel testo se lo sono trasmessi di padre in figlio, quindi non era un testo pubblico, siamo soltanto noi che profaniamo questa segretezza. E restava, come dire, il promemoria di chi aveva appreso le tecniche manuali attraverso il tirocinio dell'apprendistato, e appuntava taluni fatti che, o ricordarsi, erano troppo complicati. Schema dei numeri dei denti di un orologio, è chiaro, è difficile da ricordare quando poi le combinazioni possibili sono infinite. Però il fatto che siano infinite ma che si ricordino talune composizioni riporta al discorso, al fatto che si provava qual era la composizione migliore, e il buon esito di questo tipo, non di esperimento, di esperienza, diciamo, era quello che poi veniva conservato e diventava una caratteristica della bottega. Abbiamo degli orologiai che dispongono le ruote, per esempio, in altezza, facendo degli orologi molto alti, e abbiamo altri che le dispongono invece in minore altezza, molto più scaglionate nel senso della lunghezza, e diventano delle caratteristiche produttive di ciascuna bottega. Tornando all'apprendistato, è un fenomeno che durerà, ripeto, anche al di là della comparsa dei libri a stampa, perché un conto è quello che cercano di fare alcune persone, e un conto è quello che avviene praticamente nella realtà. Il garzone è un'istituzione che esiste tutto sommato ancora al giorno d'oggi, anche se ormai ci sono le scuole che si preoccupano di seguire di insegnare, diciamo, i rudimenti dell'apprendistato. Io volevo qui informarvi, per darvi anche un'idea delle dimensioni del problema su cui di solito si sorvola, e poi lo studio delle arti si fa studiando gli statuti e basta, come se non ci fosse altra documentazione, no? Ecco, a Genova, in tempi andati, con un accordo tra Valvassini, non tra Baroni, ma quelli sotto, si era deciso di fare un'esplorazione all'archivio di Stato di Genova, in particolare per quello che riguarda l'archivio, il fondo notarile, cercando di capire un qualcosa nell'ambito di quello che allora era un progetto generale di storia di Genova, che poi si è frammentato in alcune opere di singoli, di Grendi, l'introduzione alla storia della Repubblica di Genova, il volume di Costantini uscito recentemente dalla UTEP e così via. Comunque, da quell'esperienza di ricerca archivistica è emerso un materiale che ci ha colpito per la sua ricchezza, e è una serie di contratti che si chiamano accartaciones, accartaciones, accordaciones o accordaccio, remissio famoli, roba di questo genere qui. Cioè, in sostanza, sono contratti registrati da un notaio nei quali un padre mette ad apprendere il mestiere presso un maestro dell'arte il figlio, che è chiamato famulo. Di solito sono presenti testimoni, è specificato quanto deve durare il periodo dell'apprendistato, è specificato ovviamente il mestiere, i testimoni presenti, oltre che essere indicati col nome, sono spesso indicati con la professione, ci sono specificati i sistemi dei compensi, quanto paga uno, quanto paga l'altro, cosa dà, cosa non dà, spesso è presente la figura del fideiussore, una specie di garante per esterno per entrambe le parti. Quindi c'è la localizzazione della bottega d'arte. In sostanza, per il periodo che va dal 1451 al 1517, abbiamo trovato un 13.000 contratti di apprendistato. Questi 13.000, per varie ragioni, sono stati poi divisi, ridotti quasi alla metà, alcuni perché erano incompleti, altri perché erano rovinati, altri perché erano difformi dallo schema che ci eravamo prefissi di utilizzare, e quindi il materiale preso in esame riguarda 7.151 contratti. Questo 7.151 contratti ha permesso di raccogliere un materiale per questo periodo veramente incredibile. È un lavoro che dura da quasi una decina d'anni, è ora alla fase conclusiva. Per tenerlo in mano siamo arrivati ad avere circa 1 milione di informazioni da maneggiare. Abbiamo adoperato il solito calcolatore, senza illuderci, perché è chiaro che tutte le volte che noi abbiamo fatto una stupidaggine si inceppava tutto. Quindi il calcolatore è una gran bella cosa, però bisogna fermarci un pochino prima. Il lavoro iniziale è partito dalla trascrizione dei contratti. Abbiamo utilizzato un po' di laureandi, sfruttato un po' di laureandi facendogli fare le tesi con queste trascrizioni. D'altronde, quando non avevano fantasia, allora venivano malamente puniti in questo modo. E dopodiché si è passata l'informazione sopra delle schede, le schede che raccolgono 9x872, 720 informazioni per scheda. Le notizie che noi siamo arrivati a raccogliere riguardano circa 12.000 persone su una popolazione di Genova che per quel periodo è stimata a 40.000 persone e che in qualche modo sono connesse alle arti. Chiaro, ci sono dentro anche i notai, però ricordiamoci che talune arti avevano un notaio che rogava particolarmente per loro. Tutte queste informazioni dovrebbero avere così per noi l'intento di chiarire questa situazione. Ci siamo proposti una serie di domande, adesso io sto cercando qui, ecco, l'indicazione, e questa serie di domande che noi ci siamo posti è praticamente questa. Quali sono i mestieri presenti? Sono stati rilevati 254 mestieri. Questi 254 mestieri fanno impazzire, perché alcuni si sa nemmeno che cosa fossero. Stiamo comunque portando a termine un volumetto che conterrà appunto 250 schede, dove ci sarà descritto il mestiere in rapporto ovviamente a questo lavoro, cercando di mettere a frutto i dati raccolti attraverso il materiale utilizzato, cioè che è stato esclusivamente per il lavoro di elaborazione questi contratti. Poi naturalmente ci sono anche altre fonti, che sono altri atti notarili, per esempio quelli non utilizzati e trascritti lo stesso. Ci sono le matricole delle arti, ci sono i verbali dell'assemblea delle arti, ci sono gli statuti delle arti, documenti di carattere amministrativo, fiscale, testamenti, tutto quello che volete. Quindi, anzitutto i mestieri e la descrizione del loro contenuto tecnologico, della loro situazione storica, della loro dislocazione urbanistica e così via. Naturalmente il lavoro è stato eseguito soltanto per i mestieri eserciti all'interno della cinta urbana, perché andar fuori comportava una serie di problemi che avrebbero complicato ulteriormente la già difficile ricerca. Pensate che a Genova si chiamano quasi tutti Giovanni Battista, però il Giovanni Battista è Gio Batta, Johannes B, Io B, Johannes Battista, Gio Batta tutto attaccato e via di questo passo. E si è voluta tutta la pazienza di amici glottologi per riuscire a fare una specie di griglia che ha funzionato abbastanza per l'identificazione dei nomi. Ricordiamoci che poi il nostro amico Giovanni Battista può essere Giovanni Battista Rossetti di Giacomo da Voltaggio, e può essere Giovanni Battista Rossetti di Giacomo da Voltaggio, tutto bello completo, maestro vetraio per così dire, o maestro magister lanario, sono bene. E può essere indicato però semplicemente come Giovanni Battista di Giacomo, senza metterci il cognome, Giovanni Battista da Voltaggio, senza metterci né il cognome né il patronimico. Può essere semplicemente Giovanni Battista Magister Lanarius, magari identificato dalla bottega. Quindi questa è una delle ragioni per cui su alcuni contratti siamo stati costretti a scartarli, proprio perché andavano troppo fuori da quello che era lo schema che ci siamo prefissi. Comunque noi abbiamo anche la fortuna di avere un altro amico e collega, che è Iscovic, che è abbastanza esperto di calcolatori, il quale con santa pazienza ha seguito tutto questo lavoro facendo tutti i programmi, se noi eravamo così fermi, eravamo del gatto. Oltre a questi mestieri abbiamo anche cercato di stabilire il rapporto dei maestri con i mestieri, cioè riuscire a trovare la consistenza delle arti. Per la consistenza delle arti, così tanto per dire, come anche in queste cose, anche nella storia, sia necessario in senso buono un po' di fantasia, noi avevamo delle documentazioni che erano sempre incomplete, non avevamo nessun atto, non avevamo le matricole in sostanza, che ci desse la consistenza precisa e completa del numero dei presenti. Allora si trattava di riuscire a capire più o meno di che dimensioni erano queste arti. La soluzione, dicevo, stranamente è stata trovata facendo ricorso agli etologi, che hanno un loro modello di uso del calcolatore, perché inanellata una certa popolazione di uccelli sulla base di quelli che vengono catturati, si riesce a ritornare in qualche modo le dimensioni della popolazione originale. Questo sistema trasferito dagli animali agli uomini ha permesso, per esempio, di avere qualche informazione circa le dimensioni delle api, che poi da altri controlli risultano abbastanza congrue e quindi tutto sommato accettabili. L'altro problema era quello, non so se l'ho già detto, del rapporto tra la famiglia, quindi il tramandarsi del mestiere all'interno di una famiglia. Il grado di parentela tra il maestro e il famulo, in modo da sapere se nell'ambito di una famiglia, non intesa soltanto come nucleo familiare, ma gruppo di parenti, gruppo di famiglie, diciamo, c'era la stessa diffusione del mestiere. Gli indirizzi, sì, le localizzazioni delle botteghe hanno permesso di stabilire, per esempio, se il maestro era vincolato a una certa zona, se rimaneva, se per la bottega permaneva lungamente, se c'erano stati dei passaggi. Ricordiamoci il periodo stato tirato per 70 anni proprio per avere una durata che sicuramente sorpassa il periodo di attività di ogni maestro, per cui avere almeno un passaggio della bottega da un maestro a un altro maestro, nel caso fortunato che si abbia la continuità dei famuli che hanno fatto l'accordazione. Se io mi ricordo ancora che i lavoranti agricoli dalle parti mie in Piemonte si chiamano accordati, quei lavoranti stagionali che vengono con il contratto che si rinnovava da un San Martino all'altro, quindi questo termine ritorna anche nell'uso corrente. La durata dell'apprendistato per i vari mestieri mediamente è sui 5 anni, l'età media, cioè specifica individuo per individuo, che è ovvio, in cui l'apprendista viene assunto dal maestro, e l'età è all'incirca da 12 a 15-16 anni. Si cala, non sono molti però quello di 12, normalmente si sta sui 15 anni. Adesso qui non ho le elaborazioni perché sono i tabulati, sicuramente sono stati rilegati, per cui venire su i tabulati lo rivedi con camioncino. Ce ne tanti così. Quindi scusatemi se vi do delle informazioni, queste qui sono le reazioni che io continuo pazzamente a fare per il CNR, e ci sono tutte le equazioni, le sommatorie, perché così il comitato 08 non ci capisce niente, prende atto che facciamo delle cose molto molto belle, molto molto scientifiche, molto importanti. C'è questo fascino del letterato verso la scienza, no? Nella convinzione che dove ci sono i numeri ci sia l'esattezza, e poi parlate con qualcuno del mestiere, vedete che ogni volta che fanno una misura ci mettono più o meno epsilon, che è l'errore probabile, no? Ecco, ma il letterato ha ancora questa convinzione che per cui direi, non, chiaro, io sono un entusiasta degli annali, però ecco, la storia quantitativa, quando non scocca la scintilla, è proprio di quelle robe così che si chiamano volgarmente, guarda, e così, sono proprio cose che non si capisce perché a un certo punto le facciano. Non so, poi ci sono dei giochini per stabilire, per esempio, se i soprannomi sono ricorrenti all'interno di determinati mestieri e così via. Che cosa viene fuori? Viene fuori che in una città come Genova, dove tutti pensavano al commercio e cose di questo genere, un terzo della popolazione, se la stima di 40.000 lì, però questo fatto è quello che ci fa sorgere dei dubbi sulla legittimità di quello che dicono gli storici demografici, che fossero 40.000, un terzo della popolazione genovese in realtà non fa commerciante, non fa mercante, ma fa l'artigiano. Ma se hai mestieri stranissimi, specificati, quello che fai berretti, punto e basta. Cioè, rimane ancora, ricordo, 254 mestieri, sono un numero veramente, veramente amplissimo, insomma, ecco. Però teniamo presente che il sarto è diviso fra, che so, 5 o 6 specializzazioni, o anche di più. Quindi in questo modo io direi, e questa io la ritengo la cosa importante che vorrei sottolineare, questa, è che io ritengo che questo tipo di ricerche faccia parte della storia della tecnica. Non, mi va benissimo se me lo fa uno storico dell'economia, se me lo fa uno storico in generale, però io ritengo che non sia un aspetto dal quale debba essere esclusa, per il quale la storia della tecnica debba sentirsi assolutamente indifferente. Ho parlato prima degli artigiani fiorentini, ritenendo necessario arrivare a capire la loro formazione culturale, che poi non è indifferente, perché gli stessi della Volpaia, che non hanno studiato il latino, poi adoperano i testi latini, per esempio, per avere i dati astronomici, per fare gli orologi astronomici. Leggono i sonetti del Petrarca che prestano al ciabattino dell'ospedale degli Innocenti. Siamo verso la prima metà del Cinquecento, che dimostra anche in realtà che dietro questo strato sociale di cui non sappiamo nulla se non i capitoli delle arti, per fortuna di Fourdon, che ne pubblicò quasi 100 anni fa, se no saremmo ancora, probabilmente non so, aspettando che cosa, almeno quelli ci sono comunque, ecco, tutto questo mondo che per noi era limitato alla visione del regolamento della struttura, era in realtà un mondo che viveva, che ha una sua realtà concreta e che io non credo che si possa ignorare, non per un omaggio puramente esteriore a quelle che sono ormai chiamate comunemente le classi subalterne, ma proprio perché non riesco a capire come si possa fare la storia dimenticando tutto un settore di un mondo che poi ha avuto un significato e un'importanza vivissimi per riuscire a portare avanti quella stessa realtà storica di cui ci occupiamo quando facciamo la storia politica o facciamo la storia economica e così via. Io credo con questo di poter almeno momentaneamente chiudere il discorso sopra un aspetto della storia delle tecniche del periodo rinascimentale. Ecco, questa parte della struttura sociale del mondo artigiano, è chiaro, non è né una tecnica né nemmeno una tecnologia, però è lo strumento necessario per arrivare a capire e le tecniche e le tecnologie. Se noi non abbiamo questa struttura portante nella quale collocare e chi produce e chi consuma, per me la storia della tecnica non significa niente, anche perché, ripeto quello che ho detto nei giorni scorsi, io non credo che abbia un senso la storia della tecnica fatta secondo la categoria di progresso. La storia della tecnica, che è la registrazione cronologica delle invenzioni, come se compiuta un'invenzione tutto il mondo, o anche un'innovazione se vogliamo, tutto il mondo immediatamente si adeguasse, come se in realtà, in virtù di ragioni particolari che a volte danno una razionalità a quello che succede, anche se a noi sembra che non ci sia se non approfondiamo. Ricordo che prima dicevo che tante volte quelle che sembrano delle soluzioni o razionali o non razionali sono in realtà delle soluzioni imposte dalla materia che si adopera. Ecco, io vorrei dire che di fronte ai processi di invenzione e di innovazione, molto spesso talune situazioni non sono il risultato, anche qui, della razionalità o dell'irrazionalità, ma sono il risultato di particolari condizioni. Se passiamo un momentino, sempre continuando questo discorso qui, poi nella discussione casomai faremo le altre cose che avevo messo giù e che, di cui probabilmente non si parlerà. Se vogliamo passare a un altro caso specifico di ricerca che riguarda molto da vicino momenti di sviluppo significativi in questo periodo, è la ricerca sulla siderurgia, o così in generale l'arte dei metalli. Ho citato prima il libro di... Dov'è? C'ho le fotocopie, non c'ho tutto il libro perché era troppo grosso. Il De Re Metallica di Giorgio Agricola, 1556, pubblicato dal Froben. Vorrei aggiungere anche, accanto a questo qui del De Re Metallica dell'Agricola, la pirotecnia di Biringuccio, pubblicata a Venezia nel 1540. La presenza di questa edizione a Venezia nel 1540 mi permette di indicare anche un altro fatto, ed è che l'editoria veneziana, dall'ultimo quarto del 400 fino al primo quarto del 500, è un'editoria scientifica altamente specializzata. Ermanno Rastold, che pubblica per 10 anni, tra il 78 e l'88, prima in società e poi da solo, ha un catalogo di opere quasi esclusivamente scientifiche, e siamo agli inizi dell'arte della stampa. Quindi anche sotto questo aspetto, l'espressione materiale della cultura dell'Italia settentrionale, la cultura veneziana, non estendiamola tutta l'Italia settentrionale, se no facciamo delle indebite affermazioni, ma della cultura veneziana, dimostra chiaramente, proprio a livello di numeri, di dati, di storia quantitativa, come si diceva prima, qual è l'incidenza che questa attività dà alla conoscenza e alla diffusione della scienza nel periodo rinascimentale, attraverso la stampa. Comunque, questi due libri sono i primi due testi esaurienti sulla metallurgia. Lo stesso Agricola, che era una persona dotta, medico, eccetera, studiato anche in Italia, ha fatto la sua brava peregrinazione da noi, sono tutta quella gente che è venuta in Italia e che è interessata alla scienza, come Copernico, eccetera, che non hanno trovato diritto di cittadinanza nella storia d'Italia dei Naudi, no? Pare che siano venuti qui da noi i mercanti, tutti, ballerine, robe del genere, cantanti, tutto quello che volete, innovatori della cucina, robe del costume, non ne parliamo, eccetera, eccetera, no? Ecco, e questi qui non sono mai citati. Il mondo veneziano, adesso sta per uscire una bellissima storia della civiltà veneziana, è fatto di santi, di teatranti, di predicatori, di devoti, eccetera, eccetera, e assolutamente c'è questa roba qui, così, ecco, forse ci si riuscirà a ficcare un capitoletto. Questo per dire come quella benedetta tradizione storiografica della letteratura, dell'arte, eccetera, eccetera, eccetera, sporti a queste forme veramente aberranti, non perché io faccio lo storico della scienza, ma forse se io l'ho fatto, se sono un buon bastian contrario, lo ammetto, l'ho fatto proprio perché per far dispetto a quelli che non se ne erano mai accorti e non l'avevano mai voluto prendere in considerazione. Dunque, ho messo assieme, ho citato l'Agricola e il Biringuccio perché lo stesso Agricola all'inizio della sua opera riferisce appunto quest'opera come in pratica l'unica che abbia un senso, e chi gliel'ha messo fra mano, manco farlo apposta, è Hoc libro Franciscus Baduarius Patricius Venetus vir sane prudens et gravis me donavit. Queste riunioni che questi signori facevano, lui dice che gliel'ha donato, alla dieta, una dieta di Lipsia, il libro esce nel 40, e quindi una dieta di Lipsia tra il 40 e 1540 e il 1555, quando muore Bauer Agricola, insomma. Quindi adesso io non sono pratico di storia di questi paesi, quindi non so quale sia, ma comunque è da collocare certamente dopo la pubblicazione del libro e prima della morte di Agricola, questo è ovvio. Questo libro è di estremo interesse non solo perché ci dà un panorama incredibile per precisione, per esattezza e per acume, ma perché ci permette di istituire una specie di discorso paradigmatico sullo studio che noi dobbiamo fare dei testi tecnici. Lo stesso Agricolo è preoccupatissimo e fa un'affermazione della quale pochissimi storici anche della cultura materiale si sono accorti, ed è che in realtà la tecnica, ecco, lui fa il tecnologo casomai, però si occupa profondamente, non è il tecnologo teorico, è il tecnologo che si occupa di tecnica, la tecnica è praticata da quelle che noi oggi chiamiamo le classi subalterne, molto subalterne. Per cui il linguaggio della tecnica è il linguaggio delle classi subalterne, nel migliore delle ipotesi il volgare, e per volgare intendo quelle che diventeranno poi le lingue nazionali, nella ipotesi normale i dialetti. Il buon Agricolo è costernato di fronte a questo fatto perché lui scrive in latino. Dice, io non so come fare. In fondo all'edizione latina, allora cosa fa? Riporta due lessici tecnici. Uno dei termini, chiamiamoli in tedesco, tanto per spiegarci. In realtà è tedesco boemo, lui è della zona di Joachimstadt, Karl Marxstadt di oggi, vicino a Freiberg, la zona quindi di confine tra la Germania e la Cecoslovacchia, che, dove c'è stata proprio a Freiberg, negli inizi del 1100, l'esplosione della famosa miniera d'argento che ha provocato poi l'individuazione di questo incredibile distretto minerario dove si trova proprio tutto, è di questa zona dove la lingua è in pratica un misto tra il, credo, boemo più che cieco, tra il boemo e il tedesco di questa zona particolare. Quindi in fondo ha sentito il dovere di mettere l'indice dei termini volgari con il corrispondente latino che si è dovuto inventare. E poi ha messo ovviamente il testo, il termine latino con il corrispondente volgare come riferimento alla parte dove quell'argomento specifico è trattato. Ed ha sottolineato anche l'importanza, e qui torniamo al discorso che abbiamo fatto prima, della parte iconografica. Le illustrazioni nell'opera dell'Agricola sono una cosa meravigliosa. Una cosa meravigliosa non perché sono belle, che ormai io mi sto abituando a farmi piacere le cose brutte, ma perché sono uno dei pochi, unici, esclusivi sistemi, sempre per quel discorso del valore dell'immagine più che del valore delle parole, per penetrare e per capire questa particolare realtà. La terminologia è, per chi si occupa di storia della tecnica, una specie di tragedia. Anzitutto perché le tecniche sono sempre vincolate strettamente a una determinata zona geografica e un determinato momento storico. A seconda del ruolo che queste tecniche hanno nella vita organizzata della società, gli strumenti di lavoro, i procedimenti, sono più o meno raffinati, il che si traduce, per quanto riguarda gli strumenti, nell'essere più o meno specialistici. È chiaro che a casa dello schiera che c'ha il giardinetto, l'orticello al mare, ecco, una zappa e una vanga sono sufficienti. A casa dell'agricoltore, in un momento di agricoltura con un ruolo trainante, con un ruolo molto importante anche per la semplice sussistenza nella società del tempo, questi strumenti sono estremamente diversificati ed estremamente specializzati. E ricordiamoci che la diversificazione nella forma e nell'uso comporta sistematicamente un nome diverso. Il decadere di una tecnologia, la scomparsa di un tipo di produzione, di una tecnica anche, l'abbandono anche soltanto parziale, l'abbrutirsi di un certo tipo di produzione comporta la semplificazione della dotazione degli strumenti, di solito una specie di unificazione a livello più grossolano, contrario di quello che capita nella scienza, che il lavoro di sussunzione porta così a una maggiore comprensione, a un miglioramento in sostanza. Qui, quando noi invece vediamo che un procedimento applicato per una lavorazione diventa comune a più lavorazioni, di solito inevitabilmente vuol dire che quel tipo di tecnologia sta decadendo. La perdita quindi di questa specificità degli strumenti e la scomparsa dei loro nomi. Se questa considerazione di carattere generale noi la associamo al fatto che queste attività erano sviluppate a livello subalterno, a livello di classi subalterne, e la denominazione era dialettale, cioè in sostanza queste cose non si scrivevano, abbiamo il grosso guaio di trovare dei testi che sono quasi per noi illeggibili. Anche perché la denominazione dell'oggetto tecnico, c'è stato soltanto uno studio, se non vado errato, da un gruppetto di francesi sopra la formazione del termine chemin de fer in Francia agli inizi della metà dell'Ottocento. Però si potrebbe leggere anche proficuamente, che so, Locke, quando parla di come vengono dati i nomi alle cose e così via. Cioè, in realtà la denominazione di un oggetto nuovo ha non origini univoche, anzi direi che siano infinite le possibilità, le possibili spiegazioni del perché una certa cosa venga chiamata in una determinata maniera. Può essere chiamata in un certo modo prendendo a prestito il nome di un'altra cosa che magari essendo essenziale per un altro processo produttivo è di forma simile, o al contrario è di forma diversa ma serve per compiere un'operazione simile. È quello che noi facciamo normalmente quando chiamiamo forbici tutti quegli affari a due lame che tagliano, oppure quando chiamiamo scalpello qualsiasi cosa che serve per darci una martellata sopra e per ottenere un'azione di scavo e non un'azione di taglio e così via. Può essere chiamato in una certa maniera perché riproduce la forma di qualche cosa, no? Il galletto, chiaro, semplicemente un'associazione di idee. Può essere chiamato in una certa maniera anche così, dal nome di chi l'ha trovato. Può essere l'alterazione di un nome di cui non conosciamo la forma quando noi arriviamo ad avere questa documentazione. Quindi pensare attraverso la glottologia magari di risolvere questi problemi, beh, si può avere qualche aiuto, ma difficilmente si riesce a venirne a capo. Torniamo a ripetere allora che è indispensabile, per riuscire a capire un testo tecnico, avere il corredo iconografico, la nomenclatura corredata di immagini. Ricordo ancora che un'altra fonte dove si può procedere per confronti sono per esempio gli inventari. Sempre nell'ambito delle ricerche di siderurgia che si stanno facendo a Genova, e poi parleremo magari un pochino più estesamente, io non so fino a che la vostra pazienza duri, signora mi dica con molta... Quando non è adesso... Tra un quarto d'ora facciamo una pausa. Sì, che smetto quindi, Allora, una delle fonti sono per esempio gli inventari relativi alle ferriere. Ricordiamoci anche che c'è un fatto che queste tecnologie quando durano conservano le loro denominazioni, se non decadono, se mantengono costantemente una loro posizione, se non subiscono innovazioni, cioè se non vengono cambiate, è il senso, il significato di durano, se durano. Allora, mettendo assieme qualcosa come 10 o 12 inventari che vanno dalla metà del 400 agli inizi del 700, siamo riusciti a tirar fuori un glossario che adesso è in composizione in cui ci sono circa 700 termini. Quel maglietto che ha il professor Shebert a suo museo è un affare intorno al quale ruotano almeno un'ottantina di denominazioni specifiche. Naturalmente aggiungete a questo fatto le possibili variazioni di forma grafica o roba di questo genere, vi rendete conto della difficoltà di individuare semplicemente gli strumenti. L'altro grosso problema che si incontra particolarmente quando magari uno si trova a dover fare una traduzione è il fatto che noi non sappiamo che terminologia adoperare. Nel campo specifico della metallurgia, la storia ecco perché dicevo che è esemplare, i minerali sono classificati, c'è anche una parte teorica di mineralogia, sono classificati in base a criteri abbastanza diversi. Insomma, c'è tutta una storia di classificazione che soltanto in tempi recenti con le analisi chimiche noi siamo riusciti a derimere in qualche modo, almeno secondo i criteri che oggi vigono. In sostanza noi oggi abbiamo le denominazioni e le classificazioni dei minerali in base alla loro composizione chimica, con tutte poi le specificazioni, forme di cristallizzazione, tutto quello che volete. Allora, questo fatto non esiste. La classificazione dei minerali può essere fatta in base alla loro, di solito si prendono dei caratteri apparenti, la loro durezza, il colore, talvolta, almeno per alcuni dei più evidenti, in base a quello che ci si può ricavare, però non sarà mai chiamato minerale di ferro, sarà chiamato invece con un nome specifico e potrà essere pirite o qualcosa del genere. Quindi quando noi oggi dovessimo fare una traduzione, ecco, proprio qui nelle prime pagine si parla di un atramentum tutorium. Che cos'è l'atramentum tutorium? Cominciamo col dire che non è una cosa unitaria, sono almeno tre cose, sono delle soluzioni o di solfato di rame, o di solfato di ferro, o di solfato di zinco. Io non so di che periodo si interessi lo storico dell'arte che mi abitavi prima, ma c'è nell'ambito della storia dell'arte un qualcosa di analogo quando noi andiamo a studiare, per esempio, i ricettari per la preparazione dei colori o cose del genere. Di alcuni non riusciamo assolutamente a sapere cosa sono, questo è ovvio. Di altri riusciamo a saperlo, però la traduzione in lingua moderna, quando mi sia anche possibile stabilire una rispondenza univoca di quella tramento un tutorium con la soluzione di solfato di ferro, escludendo il solfato di rame, escludendo il solfato di zinco, mi è lecito chiamare quel prodotto con il nome di soluzione di solfato di ferro? O non faccio io con questo modo una creazione arbitraria attribuendo a una certa ricetta, a un certo procedimento, un discorso, una razionalità che in realtà in quel momento non c'è, facendo come se dietro di quello ci fossero delle conoscenze scientifiche e ci fosse una tecnologia che in realtà non esiste, ma esiste soltanto quella che è una pura e semplice esperienza pratica? Il problema è abbastanza grosso, perché vuol dire in sostanza non più fare un certo tipo di discorso che renda conto di un certo livello conoscitivo, ma spostarlo invece a quelle che sono le teorie delle valenze o che so io, insomma, ecco. Quindi in realtà i testi presentano spessissimo, al di là di quelle che sono le ambiguità connaturate con la nostra incapacità di capire quello che c'è scritto, anche, come dire, l'impossibilità di essere trasferiti ipso facto da una lingua all'altra. Questo, ricordiamolo però, non vale soltanto perché il nostro amico Agricola scriveva nel 500 e noi siamo nel 1979, ma valeva anche quando dal mondo tedesco di Joachim Stahl si passava per esempio al mondo toscano. Moltissimi di questi materiali sono individuati con le denominazioni di provenienza e l'approvvigionamento non è lo stesso. È chiaro che quando noi troviamo alumen egyptium è una certa cosa, può essere però benissimo la stessa cosa dell'alumen noricum, mentre può benissimo essere anche una cosa diversa. D'altronde sappiamo benissimo che i risultati spessissimo si possono ottenere anche adoperando degli elementi che, pur non essendo gli stessi, provocano delle reazioni analoghe. Oppure spessissimo ricorrendo a delle mescolanze anziché a dei prodotti specifici. Chiudiamo questo capitolo così erudito, diciamo, e passiamo invece ai problemi della tecnica siderurgica. Grosso modo i problemi della tecnica siderurgica sono due, i procedimenti della siderurgia sono due, il sistema cosiddetto a basso fuoco, alla catalana o ligure che dir si voglia, e il sistema invece dell'alto forno. Alto forno proprio letteralmente, eh? Un'altra cosa che stupisce è che io ogni tanto chiedo ai ragazzi: un alto forno che cosa vorrà dire? C'è un forno in cui ci sono delle alte temperature. Manco per niente, vuol dire che è fatto in piedi mentre l'altro era fatto con i cani. Quindi ci sono poi anche queste associazioni di idee, no? Come quella della travagliata invenzione di cui ci rideva ieri. Ecco, i due procedimenti sono entrambi descritti da Agricola. Il procedimento a basso fuoco è il procedimento di origine più antica, cioè in sostanza si tratta di mescolare minerale di ferro e carbone di legna, minerale di ferro già trattato. I sistemi di trattamento del minerale di solito sono costituiti da un arrostimento che serve a rendere più fragile il minerale stesso, spezzettamento dopo che è stato reso più fragile dall'arrostimento. L'arrostimento ha anche lo scopo di far perdere dalla massa del minerale così i componenti di origine solforosa o altri componenti che possono volatilizzarsi abbastanza agevolmente. In sostanza, con il procedimento dell'arrostimento si fanno due tipi di preparazione: la preparazione che riguarda la parte meccanica del procedimento e un'altra che riguarda la parte chimica. Il problema della liberazione dal minerale e quanto sia possibile di scorie che possono perturbare l'andamento del procedimento di fusione è uno degli elementi essenziali della produzione del minerale. Quindi con l'arrostimento si provocano anche per fenomeni di ossidazione l'uscita dal minerale, diciamo, soprattutto dei componenti solforosi, e inoltre lo si rende più fragile. Si procede con lo spezzettamento, lo si lava in modo che le parti terrose con il lavaggio possano essere portate via. A questo punto di solito il minerale è più o meno pronto per essere utilizzato con il procedimento del basso fuoco. Allora si mescola il minerale con il carbone di legna, si dà fuoco al tutto, si sollecita la bruciatura del tutto, poi vedremo come, e alla fine si ricava una specie di massa più o meno spugnosa che viene spezzata, tutti i sacri testi dicono in due tronconi, non riesco a capire perché devono essere due, ma tutti dicono che si spezzava in due, ecco, e dopo che è stata spezzata viene martellata normalmente con il per l'epoca che ci interessa normalmente con il maglio. Dopo che viene riscaldata, martellata, il martellamento ha una funzione di rendere più compatta la massa ferrosa, che non fonde mai, quindi in pratica, secondo questo procedimento, e contemporaneamente, sbatacchiando grandi martellate sopra la massa di questo genere, di far uscire proprio materialmente per espulsione quelli che sono i residui del terriccio, residui di altre materie che non ci interessano. Questo procedimento ripetuto porta alla fine ad avere un ferro tutto sommato dolce. L'altro procedimento che entra in uso all'incirca, almeno per quanto abbiamo di documentazione, perché poi lo storico della tecnica ha anche questo bel fatto, che di solito apprende che una cosa c'è, non quando per i tempi antichi, non quando si comincia a produrla, ma quando tutti ne parlano, quindi non si sa mai quando sia capitato che effettivamente quel tipo di procedimento è cominciato. Allora c'è la gara a stabilire chi riesce a tirare la data più indietro di 10 anni cercando le fonti più disparate. È una bella ginnastica comunque, in quanto non finisca con l'essere fine a se stesso, ovviamente. L'altro procedimento è quello di ammassare dentro un forno, alto forno, cioè costruito in altezza quindi di dimensioni maggiori, una massa di minerale, una massa di carbone, alternandoli a strati, dare fuoco, far durare la combustione, riuscendo in tal modo ad arrivare, tante volte attraverso due fusioni, a ottenere effettivamente la colata del minerale. Quello che si ottiene però non è ferro dolce malleabile, ma è ghisa, cioè un materiale ferroso che ha delle caratteristiche poco simpatiche, perché è fragile, quindi non può essere impiegato, ma deve essere completamente rilavorato. L'effetto della ghisa è un effetto che tante volte è reso più evidente, questa fragilità e questa durezza in sostanza del ferro sono resi più evidenti dal fatto che in molti casi dove vengono adottati questi procedimenti si trova contenuto del manganese, cosa che noi sappiamo e che loro non sapevano e che spesso non la sanno nemmeno gli storici che si interessano di questi tipi di discorsi. Per cui vengono fuori discorsi strani. Perché? Perché noi abbiamo la documentazione che all'incirca, quindi alla fine del XV secolo, c'è il procedimento dell'alto forno, che indubbiamente permette una produzione molto più rapida. Il basso fuoco, nei casi migliori, qui concordano sia Agricola sia il Biringuccio, dava per periodi di fusa, periodi di fusione che vanno dalle 8 alle 12 ore secondo Agricola e all'incirca sulle 10 ore, una specie di media diciamo, secondo Biringuccio, una potenzialità di circa 60 kg di minerale. Quindi 10 ore 60 kg, Le dimensioni restano praticamente costanti per tutta una serie di problemi connessi con la possibilità di rendere effettivamente ardente, di fare effettivamente bruciare la quantità di carbone e la quantità di minerale. Aumentando le dosi diventa più difficile il tiraggio, eccetera, e si aumentano le dosi, però le questioni vanno più per le lunghe. Quindi questi qui sono dei dati di ottimazione, diciamo. L'altro procedimento, per una durata di circa 6 ore, perché poi l'alto forno può continuare a essere ricaricato, quindi c'è una specie di incremento della produzione, non ricaricato all'infinito con un processo, una volta acceso non si spegne più, ma insomma può essere aumentata la quantità di minerale, la quantità di ghisa che si ottiene per l'introduzione successiva di minerale, ha invece una durata di circa 6 ore e permette di arrivare a delle cariche che superano anche i 120-130 kg. In pratica abbiamo quasi un dimezzamento dei tempi di produzione e una moltiplicazione per 2 della ghisa prodotta. Ripeto, la ghisa poi ha bisogno di un'ulteriore lavorazione, ma un altro discorso. I dati sono così, diciamo, evidenti di per sé che rimane impensabile a chi faccia esclusivamente la storia sui numeri, dimenticandosi la storia della tecnica, che noto questo secondo procedimento, la gente non lo abbia applicato. Ora, noi parlo di un'area come quella ligure, qui torno a ricerche che abbiamo compiuto noi, dove si è trovata una specie di discussione di diatriba fra il possessore di una ferriera e quello di voltaggio e il conduttore della ferriera, siamo nel 1471, dove il conduttore di ferriere che ne aveva sentito, il padrone della ferriere, scusate il nome, che ne aveva sentito parlare, pretendeva che il conduttore della ferriera, il mastro fonditore, gli applicasse il procedimento dell'alto forno. Allora la bega si trascina fino a che vanno a finire davanti al magistrato, questa non è un po' una fortuna. E noi abbiamo questa deposizione, questa causa, dove i due sono a confronto, il padrone non si preoccupa di produrre testimoni, si preoccupa invece di produrre testimoni il maestro fonditore e porta alcuni suoi colleghi della stessa zona, i quali dicono che sì, sarà anche vero, però si ottiene un ferro che non va bene, non è giusto, qui da noi si è sempre fatto così, non si deve cambiare, via di questo passo. Questo è di particolare interesse perché in realtà il procedimento del basso fuoco, che prima si chiamava catalana, poi siccome è durato di più in Liguria che in Catalogna, diventa il basso fuoco alla Ligure, dura fino alla metà dell'Ottocento in Liguria. Nel 1848 un proprietario di ferriere anche nella zona del Savonese, del Sassello, un certo Baldracco, pubblica a Torino una memoria che è anche pregevole sotto molti aspetti, dove ci si preoccupa di illustrare i procedimenti per incrementare la produzione di ferro nelle usine, dice lui, catalano liguri. Dicevo quindi che il discorso di una storia che non abbia anche un po' di attenzione portata agli aspetti tecnologici del problema, in un caso come questo, finisce col parlare semplicemente di arretratezza. Ora, l'arretratezza forse poteva anche esserci, ma cosa è dubbia sotto l'aspetto economico e sotto l'aspetto commerciale, quantomeno è dubbia per questo periodo dell'Ottocento in cui Genova è un porto di notevole impegno, l'attività cantieristica è abbastanza sviluppata, ci sono già interessi stranieri per esempio per l'impianto del gas di città e così via. La realtà è sostanzialmente diversa ed è che se noi limitiamo la nostra ricerca agli aspetti esteriori non riusciamo a cogliere pienamente tutta la realtà. Anzitutto la realtà qual è? È che la produzione di ferro in Liguria è intimamente legata all'estrazione di minerale di ferro dall'erba. La storia delle fortune delle famiglie liguri è la storia delle carature, delle magone del ferro e dell'erba che riescono a strappare i concorrenti. Quindi abbiamo sistematicamente una specie di struttura produttiva di questo genere. Il mercante ligure che è insieme importatore del minerale, nonché venditore ad altri di minerale, perché avere una grossa caratura del minerale estratto dall'erba voleva dire non soltanto utilizzarla in proprio ma anche poterla cedere, è il proprietario delle ferriere, o quantomeno è il ditatore delle ferriere, in quanto può regolare come crede la vendita del minerale di ferro. Nel contratto per la cessione del minerale di ferro, questo gran personaggio, che di solito è anche un grosso proprietario ferriero, investe altri tipi di sostanze economiche, che sono i suoi boschi. E con un contratto spesso capestro impone che il prodotto ferroso che viene anche lavorato, ecco un'altra differenza tra la produzione di zona ligure e quella di zona tedesca, la ferriera ligure di dimensioni più piccole parte dal minerale di ferro e produce il manufatto. La mineralogia tedesca, la siderurgia tedesca parte dal minerale di ferro e produce il ferraccio oppure semplicemente oppure la ghisa, cioè un semilavorato in sostanza. Allora, questo imprenditore che caratterizza tutta l'attività produttiva è un po' la chiave per riuscire a capire questo procedimento, che ha anche un notevole aspetto tecnico, e che è il fatto che il minerale dell'Elba non contiene manganese. Per cui, se si giustifica per i minerali, per esempio, delle zone lombarde e anche delle zone trentine, l'uso dell'alto forno che si diffonde da queste parti, appunto, già nel XV secolo, per cui c'è quella querela, quella questione di cui dicevo prima, la presenza di manganese rende indispensabile la doppia lavorazione del minerale, non soltanto perché si cava la ghisa, ma proprio perché nel minerale di ferro c'è dentro anche una parte di manganese che darebbe, anche con il procedimento del basso fuoco, un prodotto con grosso modo le caratteristiche esteriori della ghisa, cioè un ferro duro che deve essere rilavorato, eccetera, come se fosse ghisa. Per cui in realtà l'introduzione del procedimento non avrebbe arrecato in quel sistema alcun vantaggio. Avrebbe introdotto in pratica un procedimento che richiedeva due tipi di lavorazione, anziché un tipo solo di lavorazione. Ricordiamoci ancora che probabilmente in quella zona avvengono due fatti che invece trovano soltanto una spiegazione tecnologica. Ed è che in due periodi, che per un certo periodo noi siamo, e qui siamo alla seconda metà del Cinquecento, noi abbiamo un aumento della importazione. Ecco, dicevo che in quel testo, scusate se ogni tanto torno indietro, il procedimento dell'alto forno è chiamato alla Bressana, Brescia ovviamente. E allora, noi assistiamo alla metà del Cinquecento, un fatto curioso, l'aumento di importazione che ho documentato dalla Cappella, del minerale di ferro, e un aumento ovviamente della produzione di ferro. Siccome le dimensioni delle ferriere non cambiano, e siccome il numero delle ferriere non cambiano, sorge il problema di qual è l'innovazione tecnologica che ha prodotto questa variazione. Questo tipo di variazione è l'introduzione della tromba idroeolica. Il fuoco veniva alimentato in precedenza con i mantici sono costosi, si scassano, una cosa abbastanza complicata da gestire. Nella struttura della ferriera ligure c'è sempre il canale di derivazione dell'acqua, perché ha sempre bisogno del marmio per la lavorazione dei famosi due tronconi due che vengono estratti dal focolare semilavorati per procedere alla lavorazione attraverso la fucinatura. E quindi l'acqua viene utilizzata anche per la produzione dell'aria necessaria all'insufflazione. Il procedimento è appunto quello delle trombe idroeoliche. Cosa sono queste trombe? Chi ha visto il disegno al museo di Scheveter non ha bisogno di spiegazione. Per gli altri diciamo brevemente che si tratta di un tubo verticale, può anche arrivare fino a 10 metri, del diametro di 15-20 centimetri. In cima a questo tubo c'è una specie di cassetta. Questa cassetta è collegata con l'acquedotto, quindi c'è una vena d'acqua che precipita in questa cassetta. Se dove precipita la vena d'acqua noi mettiamo una specie di cuneo, l'acqua urtando contro questo cuneo precipita nel buco avvitandosi. Quindi a breve distanza dall'inizio della caduta forma una restrizione, quella che gli idraulici chiamano la vena contratta, e che è il principio che viene normalmente applicato ancora oggi nei carburatori, il carburatore semplice, tubo di Venturi, se vogliamo andare a cercare i nomi specifici dell'idraulica. A questa altezza, dove quindi l'acqua non occupa tutto lo spazio, sono praticati dei fori nei quali può entrare l'aria. L'acqua che precipita trascina con sé quest'aria, si forma anche una corrente di risucchio in sostanza, precipitano acqua e aria nel tubo per un'altezza dai 5 ai 10 metri, in fondo c'è una specie di cassone molto robusto per ricevere il colpo d'ariete della colonna d'acqua che precipita su questa base, il fondo è di solito costituito di pietra, l'intorno dipende da quello, da Scheberta c'è un pulpito romanico splendido costruito in realtà nel 1805 ed è la parte terminale della tromba idroeolica. L'acqua precipitando trascina con sé l'aria, questa parte terminale in cui va a finire il tubo è di solito un bottaccio di 1,5 metri, anche 2 metri di diametro, 1,5 metri, 2 metri di altezza, ha uno scolo, la possibilità di far uscire l'acqua regolabile e comunque a sifone in modo che l'acqua non possa uscire, non c'è, fa niente. Allora immaginati un sifone in modo che l'acqua resti bloccata, naturalmente sempre sul fondo di questo vascone terminale c'è uno strato d'acqua che ha uno scopo doppio, sia di ricevere il primo schiaffo del corpo d'ariete, quindi ammortizzare in parte ma non sfondare, dover rifare fondo tutti i giorni a quello che è il vascone terminale. Il sistema è chiuso ed ha un foro d'uscita di dimensioni più piccolo del foro di entrata della colonna d'acqua, e l'acqua arrivando dentro questa zona si libera ovviamente dell'aria, continuando ad aumentare il livello dell'acqua, qui interno si forma una zona di pressione, l'aria esce dal foro che è stato praticato e che va a finire sopra la forgia, sul piano della forgia, piano del forno, piano della forgia, quello che è, e si ha una corrente d'aria continua. Si riesce a raggiungere con questo sistema anche una pressione di un paio di atmosfere, che non è poco, ma è più che eccessivo per il lavoro che si vuole fare. Questa è l'innovazione che aumentando la capacità della produzione di ciascuna ferriera, fa aumentare il consumo del minerale. Un altro caso strano si verifica circa 50 anni dopo, quando aumenta la produzione del ferro, si pagava una tassa anche sul lavorato, e cala l'importazione del minerale. Moltiplicazione dei pani e dei pesci, non lo so. Non è così. Semplicemente non ci sono nemmeno dei miglioramenti di carattere tecnico nell'impianto della ferriera. Semplicemente si comincia a introdurre nel materiale per la fusione il semilavorato, cioè il ferraccio oppure la ghisa. Per un certo periodo, la cosa si spiega poi attraverso altri documenti, perché non abbiamo per una parte iniziale, constatiamo questo aumento del prodotto finito e non abbiamo invece notizia del prodotto introdotto, ed è il fatto che l'importazione era stata tale l'egemonia di questo mercante genovese, che in pratica non era nemmeno prevista una tassa sull'importazione di ferro. Non è nemmeno passato per la mente che qualcuno a Genova potesse importare il ferro. Viene istituita una tassa sull'importazione del ferro soltanto in questo periodo, e questa tassa colpisce il semilavorato. Ecco allora che l'interesse per il minerale comincia a decadere. Si comincia a lavorare contemporaneamente il minerale di ferro e fare la seconda fusione della ghisa. È un altro caso in cui il rinnovamento del procedimento tecnico, pur restando identiche le strutture della produzione, può essere spiegato soltanto attraverso questo tipo di variazione del ciclo di produzione del ferro. Questo tipo di produzione apre anche un altro interessante capitolo, ed è quello che a un certo punto alcune ferriere si specializzano esclusivamente nella seconda fusione del semilavorato. E quindi in pratica, accanto a quelli che continuano la fusione con l'uso del minerale, si va sviluppando anche un tipo di siderurgia che utilizza esclusivamente il semilavorato. C'è anche da dire che in questo periodo i genovesi non trattano più quel poveraccio della Piana, il signore di Piombino, ma nel frattempo hanno dovuto trattare con i medici e poi con quegli altri medici ancora peggio chiusi dei primi, che furono i Lorena. A quel punto era anche difficile per il commercio genovese di una Genova che stava decadendo anche proprio a livello di potenza politica, già decaduta, ma a livello proprio di potere economico, di potere commerciale, continuare a prevalere e ad avere la meglio sulle carature del ferro, del minerale di ferro dell'Avena estratto dall'Elba. In questo periodo la cosa diventa critica, quindi alla questo tipo di procedimento con il minerale di ferro importato sempre dall'Elba, ma con il ferro semilavorato importato dal nord, quindi c'è questa specie di confluenza. Le bressane si vanno sviluppando e si avvicinano sempre più ai confini di Genova, le troviamo subito sull'alto versante dell'Appennino, per esempio nel Monferrato, e anche l'indicazione che a partire da una certa data, cioè 1570, il Granduca ha deciso di impiantare un proprio forno a Piombino. Il forno di Piombino è un altro forno che produce la ghisa. Stranamente, quindi Genova, per certe sue caratteristiche, che sono queste di avere il monopolio di questo ferro dolce, che ci sono persone che hanno il monopolio della commercializzazione del prodotto finito, che c'è un mercato nel quale normalmente questi prodotti vengono venduti e che tutto sommato rimane ad un livello costante, continua questo tipo di produzione che è ancora economicamente valido alla metà dell'Ottocento. Talché c'è ancora qualcuno che si preoccupa di migliorare il ciclo di produzione, e questo Baldracco, possessore di Feriere, noi siamo venuti in possesso anche del suo archivio, e quindi effettivamente tutta una serie di note. Addirittura questo qui pensa di adoperare il motore, la macchina a vapore per la produzione dell'aria, quindi non è l'arretratezza continua a farlo così, no? Come il negro, ma è proprio una concezione completamente diversa che, almeno secondo me, trova la sua spiegazione in tutta una serie di fatti. Anche questo, quindi, per cercare di dire, chiudo questa lagna, che in sostanza una storia della tecnica che faccia la storia interna della tecnica, che non abbia un minimo di aperture, è una storia che secondo me non ha senso, come non ha senso quell'altra storia trionfalistica fatta secondo la categoria di progresso. Come si vede, con la categoria di progresso non riuscivamo a capire tutto quello che è successo nel mondo genovese, ma non riuscivamo nemmeno a capirlo se noi non avessimo approfondito quelli che erano proprio i momenti e le caratteristiche più peculiari dei procedimenti di carattere tecnico. E scusatevi. Di cominciare ad adoperare il carbone, però c'è un grosso inconveniente che fino a che non si arriva alla distillazione del carbone c'è questa grossa componente solforosa. Difatti l'uso del carbone nell'alto forno è connesso con la pratica del pudellaggio, cioè in pratica la colata non viene ridotta in panima, mentre è ancora lì liquida, di solito in un secondo momento è dentro un forno riverbero con una specie di rastrello, si agita questa massa liquida in modo da poter fare andare fuori con un sistema anche di tiraggio particolare quelli che sono la solita componente solforosa, insomma, ecco, che peggiora la qualità della ghisa, perché forma, mantiene bollicine all'interno del pane, quindi ancora maggiore fragilità e in certi casi anche maggiore durezza. Non sono soltanto i fumi, sono tutti i catrami, tutto il resto. Non so se avete mai provato a bruciare effettivamente il carbone così, ancora molto sudicia, ecco. È uno dei grossi problemi della tecnologia ancora attuale come ripresa del carbone come fonte alternativa. L'uso della lignite e anche degli altri carboni, che ha questo grosso inconveniente di avere questa componente massiccia, specialmente per oggi abbiamo distinzioni anche in questo campo, però lì era carbone quello che era, insomma. Noi sappiamo che sono alcuni che hanno più zolfo, altri che ne hanno meno. Comunque c'è in tutti. C'era anche Mazzolini che aveva questo problema delle veste, il problema della legna, piuttosto che cosa? No, inizialmente no. Cioè, inizialmente... È tutto carbone di legna, è tutto carbone di legna. Ci sono anche dei tentativi... Anche in Germania. Ci sono comunque anche dei tentativi... si tenta di utilizzarlo, però provoca un grosso inconveniente, che è la presenza di enormi quantità di ossidi di zolfo dentro la massa liquida. E fino a che non si introduce il sistema del budellaggio, per il quale è necessario però, oltre all'altoforno, anche il forno a riverbero, perché hai bisogno di questa specie di bacino in cui va a finire la colata, poi ci deve essere il riverbero della fiamma che la mantiene liquida, quindi siamo a temperature, mantenere temperature di 1500 gradi in un ambiente tutto sommato aperto, perché ci deve essere la gente al di fuori che con questa specie di rastrello con manico lungo, è il lavoro più brutale, più bestiale nel campo delle fusioni, e agitava questa massa provocando meccanicamente la fuoriuscita dei vapori solforosi e quindi l'eliminazione di una scoria dall'interno di quella che poi sarebbe stato panellina, insomma. Già provocava bollicine, rendeva la ghisa più fragile, più soggetta a, per esempio, fenomeni di ossidazione. Insomma, ancora oggi, intendiamoci, il ferro industriale è una schifezza, perché voi pigliate il ferro fatto con il... spero che si registrino anche queste parole qui. Sì, ecco. Va bene. Il ferro industriale, se voi lo lasciate fuori, si arrugginisce. Voi pigliate del ferro fatto partendo dal minerale, quindi non quello con la carica, con la bomba di ghisa, con la bomba di ferraggio in più, ma il... dove venne il termine bombo, che non è un termine onomatopeico come di solito si dice dei bambini, ma è quello che arricchisce, quello che si mette, quello che si dà in più. Vabbè. Quindi il ferro di allora, fatto partendo direttamente dalla vena, partendo direttamente dal minerale, ridotto dentro con il procedimento a basso fuoco, martellato esaurientemente fino ad ottenere il mastello compatto e una buona espulsione di tutte le scorie, poi pigliasca la venta fuori all'acqua e la charge un anno che non sarà l'inizio. Quindi il fenomeno di ossidazione è un fenomeno connesso con la presenza di determinate impurità. È chiaro che oggi il ferro comune è fatto così, i ferri specializzati si fanno, acciai specializzati eccetera, si fanno con maggiore attenzione, non è che non arrugginiscano perché sono d'acciaio, così detto acciaio inossidabile, è semplicemente il ferro fatto bene. Sì, state attenti alle etichette perché li imbrogliano anche lui. Oddio mio. Sì. Procedimento d'esaustione. Ed era in mente anche a un altro problema. Cioè, quello che lei ha detto stamattina riguarda in gran parte una riflessione, diciamo così, della città di problemi della città, nel senso che coloro che sono partito di questa hanno creato questi attenzioni. Riguardo la città, l'artigianato, l'organizzazione delle arti del mestiere, i problemi della vita borghese. È più raro invece trovare ovviamente una riflessione sempre molto per la città a quelli che sono i processi della campagna. Sì, è importante problemi relativi alla manifattura della campagna, cioè alle acque, realmente, ma loro sono dentro l'economia. Noi per esempio, la seconda metà del 500 abbiamo abbiamo pochissimi interpreti dell'economia, per esempio Paolo, per esempio, parlando di quello che io faccio, perché mi ha toccato un po' di rispetto per trovare un canale, e questo è un punto di vista. Ma non solo, ma quando noi troviamo dei testi di economia, li troviamo che sono le associature, più o meno, qualche mese di più, che è più antico, dell'economia classica, al massimo del periodo medievale. E questo la scarsità e la ricettività in un certo senso impone dei problemi. Perché ecco, questa non attenzione, diciamo così, come nasce in un certo senso questo passaggio dall'apprendistato alla tecnologia, tenendo conto che appunto gran parte di questi problemi si sono l'ambiente differente. E questo era il primo problema che volevo sollevare. Il secondo problema che volevo vedere un pochino era questo. D'accordo, non usiamo il termine di progresso. Questo forse è un elemento, una categoria progresso. Un procedimento che certamente va bene per l'interesse alla tecnologia come momento fisico, no? Tuttavia la tecnologia è connessa a una crescita economica. E qui è molto difficile non poter usare il termine di maggiore input o minore input, di valore aggiunto o di minore valore aggiunto, e quindi in ultima analisi il progresso e il non progresso. Questo è il secondo aspetto, proprio che non potrebbe essere i termini generali toccare. Allora, prendiamo il primo caso, il problema dell'agronomia. È uno dei settori in cui siamo maggiormente carenti, però a me cominciano a venire anche qui i dubbi che sono venuti andando avanti nel fare la storia della tecnica. Siamo proprio sicuri che non ci sia altro? Questo è il primo dubbio preoccupante. E questo qui mi dà anche l'occasione per vedere a un certo punto di porre una domanda che non mi sono posto quando parlavo delle fonti scritte, cioè in sostanza chi scrive e per chi si scrive. È chiaro che io ho parlato di agricola, avrei fatto bene, e anche della pirotecnia di Vannoccio Biringuccio, e avrei fatto benissimo a porre questo problema immediatamente allora. Cioè, se noi escludiamo dal discorso sulle fonti, e qui si va a finire in quella questione di prima, tutto sommato, dal discorso sulle fonti scritte, il problema dei libri di famiglia, dei libri di bottega, che ovviamente sono scritti da sé per sé, o per i membri della stessa famiglia, sorge una grossa questione, che non è da porsi soltanto per l'epoca rinascimentale, in cui qualcosa si può ancora cavare, ma noi ce la dobbiamo porre, per esempio, per dei testi che anche gli storici dell'arte coltivano, e sono per esempio le mappe clavicula di Lucca, le schede di Diversarum Martium, le diverse arti, butto schedo di Diversarum Martium di Teofilo, e altri testi di questo genere. Cioè, in pratica sono dei ricettari, che presentano però una strana caratteristica, che non riusciamo a capire materialmente. Io mi pongo anche il problema comunque a livello dei testi stampati. Quelli medievali non sappiamo chi l'ha scritti, questi qui grosso modo, piccol passo per esempio non si sa niente, ma insomma si sa che stava a Urbania lì, come si chiama, Castelburante, sì. E buono, ci aveva un parente che faceva il guasaio, poi basta, nebbia. alcuni compilatori di libri di macchine, Zon, Caramelli e via di questo passo, sono altre persone di cui si hanno così, notizie estremamente frammentarie, addirittura si litiga per sapere dove sono nati, se erano italiani, se erano francesi. Guido da Vigevo, il primo libro, uno dei libri più antichi, più belli, anche di macchine, faceva il medico. Toddo. A un certo punto la preoccupazione è questa. Come è scritto il libro? Lo scrive una persona dell'arte, una persona che si fa raccontare come si fa? È chiaro che, nonostante la grande confidenza che Giorgio Agricola, medico di un distretto minerario, ha con i procedimenti minerari, anche se si è preoccupato di avere un'iconografia molto rispondente alla realtà, il suo non è certo il discorso di chi faceva il minatore. Io ci sono stato l'anno scorso e in una di queste miniere che ormai sono semplicemente considerate dei musei che te la portano a vedere, ci sono delle fenditure che uno dice, cioè, sì, è una crepa naturale, no, è una crepa fatta smartellando, quindi cavando del minerale, della larghezza di 40-45 centimetri, che vuol dire che poi andando in su si faceva tutto così, stando puntati quando si fa la salita dentro il camino, con le ginocchia e con la schiena. Ecco perché c'era quello che loro chiamano Arschleder, il grembiulino messo non davanti come si penserebbe, ma dietro. Io ci ho avuto l'investitura di natore locale, l'hanno messo. Infatti era tanto la gente perché non ci arrivava. Non ci arrivava, allora l'hanno allungata con un pezzo di fil di ferro. È stata un'investitura un po' proprio ben fatta. Cioè, io mi chiedo, la descrizione di questi fatti, qualora fosse stata compiuta da chi apparteneva a quella stessa categoria, sarebbe condotta nello stesso... evidentemente no. Agricola è abbastanza realistico e abbastanza dentro la questione. Però certe descrizioni, anche nello stesso Agricola, poi quasi normalmente negli altri, presentano delle sommarietà o delle ingenuità che dimostrano chiaramente come, da un lato, in certi procedimenti di sommarietà, chi scrive ritiene che le cose di cui parla siano ovvie, per cui l'esposizione sorvola. Io ieri, affrontando questi argomenti con i ragazzi dell'università, dicevo, è la questione delle ricette di cucina. La ricetta di cucina fatta dal cuoco per l'altro cuoco dice, e adopera una certa terminologia, indica un passaggio, o tante volte non lo indica nemmeno, no? Dice, bollite le patate e passatele, non si dice di sbucciarle, è chiaro, è ovvio che si rivolge a una persona che ha una certa età, ci sono anche degli altri casi. Mi finisco la cucina perché più o meno sono cose di cui abbiamo le idee tutti quanti, no? Estraete il mastello, cito Agricola, estraete il mastello dal forno, non si dice di pigliare le tenaglie. Noi ci rendiamo conto che per estrarre il mastello dal forno bisogna pigliare le tenaglie per ovvie ragioni. Dico, però se il procedimento fosse un procedimento per il quale noi non abbiamo termini di riferimento, noi immagineremmo questo procedimento fatto senza le tenaglie. E qui siamo forse nel caso dell'ovvio. Comunque possiamo ancora avere delle altre invece delle ingenuità oppure delle sommarietà che sono da chi esamina dall'esterno e non coglie qual è l'aspetto essenziale, ma descrive quello che egli ritiene sia essenziale. E sono i due aspetti che noi troviamo, per esempio, nelle descrizioni degli antropologi, no? Quando guardano loro dal di fuori non capiscono niente, e allora ci mettono quello che gli pare che sia. Oppure quando se lo fanno raccontare, e l'altro parlando di cose ovvie, discorso che potete fare con chiunque, qualsiasi artigiano, ma come fate a fare questo? E si fa così, così, così, quattro parole, il procedimento è spiegato. Poi siccome la cosa non vi persuade, ma prima non c'è fatto, sì, ovvio. Oppure addirittura, ma lei prima non me l'ha mica chiesto. Per esempio un discorso sulla qualità del legno per fare un determinato strumento. Quando lo si deve tagliare? Che sono cose essenziali che al di là di una scheda ben fatta, quando l'antropologo lo descrive, di solito si dimentica di mettersi, se non sa proprio la guida sistematica che ha specificato momento per momento. Quindi, chi è che scrive? Agricola sappiamo chi era, di Ringuccio sappiamo più o meno anche chi era, Francesco di Giorgio Martini pure, questi artigiani pure, così via. Per chi scrive? Qui la domanda è veramente una domanda tragica. Perché? Per gli artigiani certamente no, perché di solito non leggono, oppure non hanno i soldi, non sprecano i soldi per comprarsi il re metallica dell'agricola, che è il messale di queste dimensioni qui. Ricordiamoci che c'ha in media due xilografie per pagina, alto così, fate il conto delle xilografie. Il libro esce postumo, perché gli illustratori, di cui ci sono anche i nomi, e l'agricola dice che sono costate quelle illustrazioni un franco di soldi, ci ha messo 6 anni per fare il materiale illustrativo. Ora, questo libro così prezioso, che cos'è? È quello che noi pensiamo sia il manuale che il tecnico fa per gli altri tecnici, o è un'altra cosa? Secondo me, il manuale del tecnico per gli altri tecnici sono i libri di famiglia, non è questo il manuale. E allora io vorrei che qualcuno mi chiedesse che cos'è, perché dovrei confessare che posso fare delle ipotesi che non mi persuadono e che sono all'incirca di questo genere. È il fatto di un momento in cui non i filosofi prendono coscienza delle macchine, come dice il titolo di un libro fortunato ma che non mi soddisfa, ma perché gli artigiani prendono coscienza delle macchine? Perché non è che quando lo dice il filosofo tutti sono convinti, no, è quando sono quegli altri che lo dimostrano. Quando la trattatistica è un qualche cosa, la trattatistica classica, pensiamo Vitruvio, diventa il modello. Quando questa benedetta mania del modello, che ci hanno insegnato che ce l'hanno i letterati, invece no, ce l'hanno tutti. Francesco di Giorgio Martino lo dice chiaro, adesso vi rifaccio Vitruvio. Proprio il bucline, così, a vedere il minerale, per vedere se c'era il rame, vetriolo, minerale, diventa verde, punto e basta. Vedere questo è proprio fatto senza nessuna tecnologia dietro, se vogliamo tornare a quello che dicevamo prima. Per me le soluzioni vanno in questa direzione. Se poi c'è anche forse un'altra cosa che dobbiamo tenere presente e che sta un po' a parallelo con quello delle enciclopedie, e sono i libri che hanno i loro capostipiti nei De Mirabilibus Urbis, queste specie di guide, queste specie di descrizioni delle cose meravigliose, cioè la necessità poi di mettere un'informazione a disposizione di chi, forse è un problema che l'autore non se lo pone nemmeno, però una specie di esigenza di partecipazione, che è proprio quella che io, alla quale io mi riferisco quando dico che con la pubblicazione di questi testi il medioevo delle corporazioni è effettivamente finito, non è Copernico. Soprattutto parliamo male di Copernico, eh. Quindi, se spostiamo questo tipo di discorso all'agricoltura, a me pare che manchino alcuni degli elementi perché si possa pensare a una trattatistica di questo genere. Non c'è manco il fattore di scrivere. Il libro del fattore non ce l'abbiamo. Teniamo sempre il libro del padrone, che naturalmente è vicino, il discorso di ieri, a quelli che sono i testi economici del padre famiglia, il libro della famiglia di Don Battista Alberti, però io conosco meglio che conosco di più. Però io ho l'impressione che forse se noi cerchiamo possiamo trovare qualcosa, magari non direttamente. Certe suggestioni anche alla Poni, no? Possono essere illuminanti in questa direzione, indirettamente. Direttamente io penso che non ci sia niente da fare, anche perché quelli che scrivono non sono i minatori, sono quelli che stanno in una certa gerarchia, e l'agricola si preoccupa, c'è addirittura un libro intero sulla gerarchia della miniera, e possiamo metterci lì, fare la nostra scala e metterci la crocetta, e vediamo con chiarezza che fin qui sanno scrivere, leggere, e di qui in giù non sanno più. E naturalmente non sono mai questi qui, sono quegli altri. E allora ecco che nelle introduzioni tornano però i concetti che trovi nei libri di agronomia, cioè cosa si deve fare, perché lo si deve fare, perché questo rende di più, perché poi le motivazioni sono sempre di questo genere, di carattere puramente economico, che è il classico discorso rivolto non a chi trae i propri mezzi di sostentamento dal proprio lavoro, ma dal lavoro degli altri. Quindi in realtà il discorso è sempre mantenuto al di fuori. Ora, forse nell'agricoltura quello che manca è questa specie di figura intermedia che è l'artigiano per le vecchie arti e che è per esempio un tecnologo del tipo di Biringuccio, che faceva anche il maestro dell'arte mineraria. Ecco, direi proprio il fattore agricolo che abbia le caratteristiche culturali del tecnologo non c'è. Questo non vuol dire che non avesse la sua scienza, ce l'aveva e come, però non aveva quella formazione culturale che lo ha portato a parlare, che lo ha portato a fare l'imitazione delle rustica o dell'agricoltura o roba di questo genere qui. Poi i modelli comunque, anche per i dotti, poi i modelli sono quelli lì, però sono fatti con un'altra prospettiva. Io non si è mai sporcato le mani, insomma. Credo di aver aggiunto confusione a confusione, come mi succede sempre. Ma è chiaro che il problema è un grosso problema aperto, ripeto, che anche per quegli affari lì che sembra siano abbastanza chiari, questo è un assolutamente. Non c'è nemmeno il libro di ricordi dell'agricoltore, o quantomeno non ha mai raggiunto al di là della pure semplice annotazione, chiamiamola economica, tanto per spiegarci, l'interesse per il mondo esterno. Cioè, la vacca che fa il vitello non è mai mescolato, che so, con l'arrivo di Carlo V, una roba del genere. Scusi, sì. Non lo so, mi posso dire poco, ma avanzare una suggestione a quale ovviamente lei potrebbe rispondere, perché tra l'altro è un'interrogativa per me. Mentre nell'ambito, diciamo, della tecnologia, altri mestieri, noi abbiamo ovviamente messo tra le quali un progresso da fine del Medioevo fino al Settecento. Questo si verifica anche per l'agricoltura, o fino al Settecento l'agricoltura rimane dopo, diciamo, le innovazioni nel 1200, non ricordo, rimane statica? No, cambia anche l'agricoltura. Cambia anche l'agricoltura. Cambia anche quello, lo strano. E questo è il fatto curioso. E notate anche che non trovate. Il punto di vista tecnologico potrebbe giustificare, se no gli scatti interesse. No, cambia anche l'agricoltura, migliorano le reti. Oddio, ci sono per esempio dei documentabilissimi lavori di canalizzazione, pensiamo soltanto al pallino che a un momento gli piglia quasi a tutti di prosciugare le zone umide, insomma, l'idea del risanamento delle paludi puntine non è un'idea di 50 anni fa, è una roba vecchia. Quindi c'è questo, non lo so, ecco, e per me resta questa una grossa questione, la quale io prima non ho affatto accennato, che però è stato il dito messo sulla piaga, ecco, questo qui. E poi qual è l'altro? Sì, sì. Quanto dell'ovvio viene taciuto anche a livello, per esempio, io penso che l'ambiente cittadino, di alcuni problemi, per esempio Leonardo, no? Classico di cinese. Non si pone assolutamente nessun problema preliminare quando a un certo punto costruisce la sportezza, la rotta della sportezza, lui il problema dell'organizzazione delle acque con le infrastrutture, il problema talmente ovvio, talmente spuntato, che tutto sommato non arriva, cercando di fare un'analisi precedente, perché la fa e va bene, uomini perché si affetti va bene. È un progetto di questo genere o proprio anche a livello di quelli della città, non soltanto per me, tutto. Ma probabilmente anche con qualche deformazione il momento di riflessione tecnologica per l'agricoltura sembrava magari un fatto portato o no? Io direi che sì, probabilmente in un certo senso sì, perché c'è anche un fatto che in realtà i destinatari della tecnologia sono due. Diciamo i prodotti per il piacere che vanno alle classi superiori, gli strumenti di lavoro che vanno alle classi inferiori. Nel caso dell'agricola si fanno certi, si preoccupa del sistema migliore per coniare le monete, che ovviamente non riguarda i contadini, ma ci si preoccupa anche del sistema di fare le forche e i badili. Quindi in questo senso forse noi potremmo come ipotesi anche cercare di vedere in che direzione vada questo, che è una lettura che io per esempio non ho mai fatto, non so se l'ha fatta qualcun altro. C'è proprio questo, il problema dell'ovvio. Sì, indubbiamente è chiaro che certe cose si fanno per un certo destinatario che non sappiamo chi sia. Ecco, forse partire così può essere una sollecitazione verso un certo tipo di lettura che indubbiamente andrà fatto. È chiaro che per esempio il lavoro di canalizzazione in questo periodo è un lavoro di canalizzazione che ha essenzialmente due scopi. Da un lato quello più grandioso, direi, e in realtà il meno importante, anche se più documentato, perché le dimensioni del manufatto affascinano, che è quello della viabilità dei corsi d'acqua, no? Le chiuse, roba di questo genere. Però ricordiamoci che queste stesse chiuse devono sempre, sono fatte in sostanza per non alterare il corso del fiume, perché dietro il corso, dietro quella struttura del corso d'acqua c'è tutta la popolazione dei mugnai, che vuol dire i mulini, che vogliono dire prima una proprietà diretta o del feudatario, del vescovo, di chi volete, poi quantomeno una fonte cospicua di tassazioni quando c'è la proprietà. E il mulino vuol anche dire che sono la ferriera, stesso discorso, vuol anche dire però la possibilità di utilizzare l'acqua per uso agricolo. Il mio paese, in Piemonte, si fa agli inizi del 200 una roggia di quasi 8 km di lunghezza, profonda un paio di metri e larga 3, prendendo l'acqua da un torrente a nord e scaricandola in un altro a sud. Questo lavoro attraversa il territorio di 2 o 3 comuni che pochissimi anni dopo, cioè quando il feudatario non riesce più a farsi rispettare in sostanza, iniziano delle lotte con morti eccetera a livello di persone di questi comuni, perché rubano l'acqua. Prima perché rubano l'acqua alla chiusa, dove hanno chiuso il torrente per fare la derivazione. Poi questi altri rubano l'acqua durante il percorso. E cominciano anche, alcune ruberie poi si consolidano e diventano dei diritti acquisiti, diciamo. Allora cominciano una serie di questioni, di cui io ho una comparsa secentesca, che sono finite soltanto con una sentenza della Corte d'Assise di Casale Monferrato, del 1922-23, non mi ricordo più, sono 700 anni. Grazie dell'informazione. Dico, sì, ma pensate, perché poi c'era il mulino, e il mulino parlava in nome prima del feudatario, poi dell'entità delle tasse che versava. Dice, come? Tu feudatario, che sei il padrone, permetti che quelli mi freghino l'acqua, perché ti paghi le tasse? Non si è mai detto. E gli agricoltori lo stesso discorso, se ce la rubano, però se chiudono sopra l'acqua non scorre più, noi non la possiamo, allora ci dovete ridurre le tasse. Il discorso, direi, ruota attorno a questo. E questa qui per esempio è un'opera agricola di notevolissimo pregio. C'era tutta una serie di mulini, io ho un disegno cinquecentesco che illustra tutto il percorso con tutti i mulini disposti, non ce ne manco più uno, ma io comunque almeno 4 me li ricordo quando ero ragazzino, ci andavamo fa il bagno sotto il buco che c'è proprio davanti dove sbatte l'acqua della ruota, insomma. Le stesse innovazioni del mulino che cosa hanno significato per l'agricoltura? Ricordiamoci che il mulino non è quello romano, e io mi sono inchinato davanti a Bloch all'inizio, però non è manco quello rinascimentale, eh. È una cosa molto diversa, è una cosa molto più organizzata, molto più raffinata. Quindi c'è anche l'innovazione, direi che il discorso di Bloch è il discorso sull'invenzione, il discorso rinascimentale è il discorso sull'innovazione, che è anche importante. Il giorno in cui noi avessimo una conoscenza sufficientemente sottile e non soltanto per fatti grossi o grossolani, riusciremmo a capire, anche a distinguere, a renderci conto dell'innovazione, mentre ora sì e no ci rendiamo conto dell'invenzione. Cioè, comparire per la prima volta di una certa cosa, nella nebbia in cui ci stiamo muovendo riusciamo a percepirlo. La modificazione dei profili di quella cosa, se vogliamo continuare a mantenere il paragone, è ben difficile da percepire, quindi c'è dietro anche questa nostra grossolanità. Il tipo di allevamento del bestiame, il problema delle serrature, Shebert insegna, che non è soltanto quantitativo ma è anche qualitativo. Il sistema delle forme degli strumenti agricoli, guardate che il discorso che io ho fatto sugli attrezzi delle miniere, è tragicamente identico per gli attrezzi agricoli. Io con mia moglie mi sto giocando su una cinquantina di codici di Esiodo con le figure degli attrezzi agricoli, con le didascalie in greco, e non si riesce a trovarne uno in nessun dizionario, insomma, al di là di quelle generali e generiche. Sulle parti dell'aratro greco sono secoli che litigano e ciechi non hanno mai guardato che ci sono le figure con i nomi scritti. Vabbè, questo è un altro problema, un'altra deformazione. Però nella stessa agricoltura tutti questi aspetti noi a un certo punto li dovremo chiarire. Cosa rappresenta l'introduzione, per esempio, che so, della falce da manovrare a due mani anziché il falcetto da operare a una mano sola? Ricordiamoci che i romani avevano già la macchina per raccogliere il grano, no? E mentre qui, dopo questa regressione, ci sono dei fatti di questo genere. Per esempio, il tipo di allevamento del bestiame, il tipo di carro, carretto, i mezzi dei trasporti agricoli, non abbiamo praticamente nessuna documentazione. Una delle fonti di discorso di oggi è l'iconografia, però l'iconografia è una fabbrica con le molle. A questo proposito, forse adesso c'era Lupo che vuole, non so se è a questo proposito, ma però siccome l'iconografia su più mi evoca Lupo. No, e volevo appunto approfittare perché poi tu scappi via e quindi. Ho una domanda molto particolare, uno più generale. Quando sono arrivato lì parlavo del lavoro a Tesi, e detto questo comunque perché è da un po' di tempo che sto cercando un pochino di vedere le fonti manoscritte per il film, per riuscire a tirare fuori qualche cosa sulla. Io ho cominciato con la scuola dell'archivio di Riva del Garda per 2 anni fa, sì. E ho passato diversi mesi a guardare, non tutto, soprattutto il periodo che va dal 1400 al 1470, sono i principali che si sono stati. E ci sono moltissimi documenti interessanti. Io l'ho guardato per vedere argomenti chiaramente di storia dell'arte, vedere notizie di pittori e scultori di questo periodo, ma non ho trovato. Ma non essendo cieco, ho visto anche gli altri. E mi sono notato di le cose di cui si trova una memoria. Ecco, volevo chiedere anche questa. A che epoca risale l'uso diffuso dell'orologio a pesi? Perché per esempio nel 1470 trovo arriva un sacco di notizie su degli orologi. E il comune che ogni anno doveva dare al magister rosario una tassa di olio per lubrificare i meccanismi, gli orologi pubblici. Sì, e poi il magister rosario veniva chiamato da Brescia perché il orologio non pulsava d'ora, no? Allora lo chiamano super. Dico, non essendo introdotto molto in questo argomento, vorrei sapere se è alta epoca oppure no. È già normale. Cioè gli inizi dell'orologio appesi si possono far risalire comodamente al 200. Dante ne parla già, senza parlare dell'orologio, senza dire che è un orologio, ma fa l'immagine della ruota celeste che si gira così come si gira la ruota che regola la ruota dei beati che danzano, come gira la ruota che regola il movimento dell'orologio. Il che vuol dire che in quel momento l'orologio era già un affare notevolmente diffuso. Ricordiamoci che prima c'è l'orologio pubblico, dopo viene il piccolo orologio a pesi, che alcuni li mettono assieme, secondo me sono due cose da tenere separate, perché il piccolo orologio a pesi è un qualche cosa che si sviluppa dallo svegliatore monastico, che è un timer, diciamo, e non è un orologio in realtà all'inizio, cioè misura una durata e non misura il tempo. La modifica di questo tipo di orologio, quindi suonava, alla fine faceva suonare, c'è una famosa miniatura di Bruxelles sulla quale hanno giocato un po' tutti, dove ci sono le bigliettine che appesantiscono un secchiellino mette in azione una specie di ruota d'acqua che girando sbatacchia contro le campanelle e suonacchia facendo un suono gentile che però serviva a svegliare il frate campanaro che poi andava a attaccare il campanone e svegliava tutto il convento. Quindi siamo alla fine del 200, l'orologio, anche quello piccolo, è già diffuso. Gli orologi pubblici sono una cosa abbastanza notevole, non normalmente noi pensiamo all'orologio che sta sul campanile o che sta sulla torre, in realtà l'orologio pubblico sta dentro la chiesa, non fuori, dentro, il quadrante è dentro, lo trovate ancora, che cos'è per esempio, in Santa Croce, sì, Santa Maria del Fiore, ci sono le teste di Paolo Uccello, no? Sopra, attorno, e la mostra è interna, l'orologio è dentro, soltanto intorno a questo periodo qui l'orologio si comincia a mettere fuori, perché in realtà l'orologio non mostrava visibilmente il tempo, lo comunicava sensibilmente, in modo che chi stava anche in casa poteva sapere che ora era, insomma, ecco. Quindi la prima misurazione la misura del tempo non viene data attraverso il quadrante, ma inizialmente viene data attraverso la campana, attraverso la suoneria, poi si passa invece al quadrante. Quasi tutte le città hanno un loro orologio pubblico, la perfezione dell'orologio, ricordiamoci Dondi, siamo in pieno 300, sulla strada del Dondi è una cosa mitica che se la porta via Carlo V dopo la battaglia di Pavia, insomma, ecco, quindi poi si porta dietro Quanello Turiano per aggiustarlo, ma però più niente. Cioè. Comunque abbiamo tutti i manoscritti dell'orologio del Dondi, sono almeno 12, uno quello che c'è conservato alla Biblioteca Capitolare di Padova, è pubblicato da Petrucci and Company in un'edizione delle fonti della Biblioteca Vaticana ed è un lavoro splendido anche per la terminologia e tutto il resto. Quindi è normale, ed è una carica pubblica, i Della Volpaia di cui parlavo prima, sono stati per varie generazioni i temperatores dei vari orologi con un certo stipendio. Quindi l'uso è senz'altro diffuso, anzi direi che abbiamo ricordato l'introduzione dell'orologio a molla, il primo accenno e la prima indicazione di un orologio a molla, che è l'unico orologio che si può portare addosso e che si può portare in viaggio. Quella pesi, se uno sbatacca un pochettino sballa tutto, e invece quello da portare addosso è l'orologio a molla. Prima testimonianza sull'orologio a molla che io abbia trovato si trova, prima testimonianza in un certo senso, di un certo peso, si trova in uno dei manoscritti dei Della Volpaia, i quali sfasciarono un orologio che si trovava in una mazza e che era mosso da una molla, e poi loro fecero questo orologio, pigliarono la molla, è bellissima l'idea dell'esperimento, c'è una specie di carrettino caricato di pesi, la molla in trazione, per vedere qual era la forza che sviluppava la molla, che dimostra che in quel momento l'orologio a molla, che non è inventato da Norimberga, e tanto meno da quel tizio, che l'hanno sempre letto male, perché si chiamava uovo e loro leggendolo male hanno capito che si chiamava online, vabbè, questa è un'altra questione, anche perché di questa tecnologia se ne sono occupati soltanto in loco e quindi hanno preso le testimonianze locali, ecco l'altro tema importantissimo che la categoria di progresso diventa poi soggetta. Vabbè. Bisogna venire a domanda generale però, perché sennò rischiamo di saltare il passo. Oddio. No, va benissimo, ma bisogna che tu... No, la colpa è mia. lui è un po'. No, volevo soltanto confermare quello che lui ha detto lei prima sul modo che hanno gli storici dell'arte di pubblicare determinate cose e non pubblicarne altre. Però ritornare un'altra cosa e chiedere un'altra cosa. Come si fa a superare questo impasse? Cioè, molte volte lo storico dell'arte vede soltanto il settore di disegno e non vede quello che lo accompagna. E molte volte lo storico della scienza vede soltanto lo scritto e non vede l'aspetto artistico, ma anche l'aspetto della fonte del non so. Quindi, è vero, è vero, sai. Io parlo male degli altri, ma ogni tanto fa bene che ci sia. Sì, no, è un fatto che secondo me è da superare. Lei prima parlava di Leonardo, avere in mente quel volume del Soldi sugli istituti vitali. Forse è un primo tentativo di indagare un po' sulle origini del pensiero vinciano scientifico, insomma, e di mettere un po' di luce anche. Non so. Vede, Leonardo è una tragedia. Ha fatto innamorare tutte le zitelle, dalla Bricio che è ancora viva, quelle altre Fumagalli che sono morte. E naturalmente trattare a livello di sentimenti i fatti storici provoca dei grossi guai, no? Ecco, per cui dopo il Solmi, sullo studio del manoscritto B, sulla cronologia dei manoscritti, abbiamo della gente che va per la maggiore e che fa le cronologie non sulla base della paleografia, sulla base dei contenuti, ma sulla base delle sue sensibilità estetiche, del mio amico Carlo Pedretti, che trova un mucchio di gente che è disposto a starlo a sentire anche se non fa altro che contare le robe che non c'hanno né capo né coda. Perché basta presentarsi lì a parlare di Leonardo che cioè, apriti cielo, no? C'è uno storico dell'arte famoso, che è il Venturi, che ha messo dentro la storia di una Madonna di Leonardo anche un disegnino, che in realtà è una rappresentazione di estremo interesse per la storia dei mostri, ed è la raffigurazione di un toraco parassita, cioè un caso di mostruosità di una donna che aveva una specie di un qualche cosa che gli usciva a livello dello stomaco, no? E questo disegno, che è chiarissimo, ha studiato con Belloni, il solito Belloni, no? Dimostrando che cos'era, poi ha trovato anche i librini che ne parlavano, un fenomeno da baraccone, eccetera, eccetera. Il nostro amico illustre storico dell'arte, Venturi, insomma, tutti tanto di cappello, l'ha messo nelle genealogie della figura della Madonna col bambino. Non, cose da non mettere a bombare, mi raccomando. Sono numerosissimi questi casi, insomma, ecco. Ed è vero, io riconosco anche che ci dovrebbe essere una collaborazione. Ci dovrebbe essere una collaborazione, l'idea di continuare a fare il codice atlantico sforbiciando via, no? E se c'è il disegnino bello di qui e di qui, allora sul cartone ci facciamo la finestra per farli vedere tutti e due. Se di dietro invece c'è scritto qualcosa che non è bello, allora no, spiaccichiamo così, scolliamo lì, tanto quello che interessa è soltanto questo. Purtroppo è fatto così, e il corrispettivo ancora più tragico è nel campo della storia della letteratura, che se hai fatto il sonetto ti ci mettono. Se hai scritto la pirotecnia di Vannoccio Pirigusto, tu nel dizionario storico della lingua italiana della Crusca non ti ci mettono manco a morire. Per cui vengono fuori delle stupidaggini che dei termini tecnici che sono in uso da tempo immemorabile, te li datano come introdotti nella lingua italiana soltanto da quando hanno trovato ospitalità in un testo letterario. Questo è normale. Bisogna anche approfondire lo studio per esempio degli indici scritti. Lo so. Meno male che c'è uno che mi dà ragione, vedi? Molto importante che sto studiando, questo è il buon consiglio. Cioè, e per la redazione dei disegni mi servo non solo dei raffronti iconografici, ma anche ci sono dei sonetti, ci sono delle ricette di colore, ci sono dei progetti che sono delle streghe, insomma. Ecco, quindi c'è. E poi è chiaro che bisogna costruire attorno tutto il mondo, perché i riferimenti che questa gente fa non sono di solito ai grandi eventi della storia europea o della storia mondiale, ma sono i riferimenti a quello che capita al vicino, insomma, non si va più in là di tanto. Va bene. Allora chiudiamo qui e ci rivediamo fra quando ci vediamo. Ci vediamo tutti insieme. No, poi ritorno. Le auto. Ci vediamo con auto nostre. sono stato in alto. La pioggia è stata... tipo, un brevetto, no? Per quanto riguardava le tecniche, si era inserito nei fondi scritti, cioè i famosi libri di bottega che poi venivano in maniera dalla famiglia, no? Come lei ha detto, o se viaggiavano attraverso i fondi scritti, primo. Secondo, mi sembra che sono arrivato solo nel 1790 con le prime leggi dei brevetti, sui brevetti, no? Questo è poco. Allora, ma si va molto più indietro. Molto più indietro, va bene. Cioè, chiedevo questa esigenza di una normativa a livello chiaramente delle tecniche, da cosa è stata data. Un'altra cosa che mi sembra collegata è proprio il discorso dell'espansione delle tecniche, no? Cioè, chiaramente si lega sul discorso. E soprattutto volevo sapere se c'era un confronto tra i vari artigiani, anche locali, di queste tecniche, che penso includa anche un discorso così di chiaramente che può entrare anche nel progresso del livello parte minima, ma forse. Dunque, penso che forse la cosa migliore sia allora di sgombrare subito con questa questione qui, che si può risolvere abbastanza agevolmente. Il brevetto con il nome di privilegio è una cosa sostanzialmente cinquecentesca. È un altro sintomo che finisce la struttura delle corporazioni con il segreto di mestiere. Cosa troviamo nei libri di bottega? Nei libri di bottega troviamo certo anche i segreti, però certamente non così, insomma, come ci sono le altre cose. Sono privilegi, non tutti gli stati concedono i privilegi, ricordo appunto la Toscana preilluministica, dove il Granduca riteneva che un ritrovato dovesse essere premiato dal principe e messo a disposizione senza balzelli di tutta la comunità. Quindi in pratica, diciamo, al privilegio si sostituisce il concetto di premio, di incoraggiamento, comunque di rifusione, per il fatto che un certo qualcosa venga reso pubblico. Che cosa viene reso pubblico e che cosa viene coperto da privilegio fino a tempi estremamente recenti? Di solito di brevetti si parla dall'unità in poi, prima si parla di privilegi. Viene brevettato, stranamente, no, però abbastanza chiaramente, di norma, un prodotto e non un procedimento. Direi anzi che addirittura chi ottiene quel prodotto si preoccupi, pare di capire, di rendere noto il procedimento attraverso il quale arriva il prodotto, cioè in pratica non si fida nemmeno dello Stato a cui offre la tutela, a cui chiede la tutela della propria invenzione. Quindi il prodotto e non il procedimento. Il privilegio è un privilegio per un periodo relativamente ristretto. Ricordo con piacere i primi privilegi a tutela delle opere dell'ingegno, che sono i privilegi per gli stampatori, che prima concederla in Venezia, proprio alla fine del 400, sì, fine del 400, insomma, della... per cui è una delle ragioni dell'incremento dell'attività tipografica all'interno dei domini veneti, che poi era causa insieme ed era effetto di quell'interesse per la scienza e per gli altri tipi di cultura, diciamo, di cui si è parlato stamattina. L'espansione delle tecniche. La storia dell'espansione delle tecniche è estremamente complessa. Non è mai univoca e non è mai unilaterale. Non ricalca mai lo stesso schema. E a un certo punto ci sono alcune cose che si diffondono con estrema rapidità. In altri momenti alcune queste sono affermazioni che ci vuol sempre il sembra davanti, perché, ripeto, è da tempi solo molto recenti che sappiamo che tal procedimento o tal prodotto viene individuato in tal anno. Prima, a un certo punto, troviamo che si comincia a parlare di una certa cosa. Talvolta è lecito e possibile, alla finezza di chi legge, riuscire a capire se quel fatto è presentato come una novità o se è semplicemente un fatto ormai acquisito, ormai normale. Su questo ci sono degli spostamenti di persone che agiscono in due modi, portando con sé le proprie tecnologie, ricordiamo per esempio che sono i maestri stimolatori, che però è chiaro che portavano con sé, ma dove operavano qualche cosa lasciavano, gli stessi fonditori di campane, La campana si faceva nella chiesa, si fondeva dentro il campanile, anche per rendere più semplice l'innalzamento nella cella campanaria, evitando problemi di trasporto. Naturalmente però questo lasciava dei segni, diciamo, tecnologici, tecnici, dove questo fatto avveniva. I dubbi miei è che le tecniche si siano espanse attraverso la divulgazione dei manuali. Di solito il manuale diventa, direi però non so se già nel 500, almeno dopo, perché sennò bisogna spiegare la fortuna di certi testi come delle metalliche, la pirotecnia di Pilinguccio, che durano per 200 anni, diventano, come dire, dei termini di confronto, più che degli stimoli per una nuova tecnologia. Quindi casomai sono degli agenti di un aspetto innovativo del processo di produzione. A questo punto non saprei cosa. Talvolta ci può anche essere l'arrivo di un certo prodotto che stimola un tentativo di imitazione. La storia è tutti nota della ricerca della porcellana cinese a parte di Palissy, eccetera, eccetera, eccetera. Il confronto fra gli artigiani locali sulle tecniche, direi che tutto sommato nell'epoca delle arti e delle corporazioni lo standard del prodotto è fissato dalla corporazione stessa e tutti partono quindi su un livello comune di know-how. Quello che cambia è casomai dopo, ma allora è il mercato, non è la concorrenza tra gli artigiani, ma è la domanda e l'apprezzamento di chi domanda a provocare una forma di selezione. Non mi risulta che ci siano, come dire, la fiera col premio al migliore espositore, ecco, questa direi non mi pare che ci sia. Si sa che esistono delle persone o dei centri che hanno una produzione specializzata che lo sanno far bene, no? Per esempio le storie di Pony sull'arte della filatura, eccetera, sono particolarmente significative da questo punto di vista, però voglio dire, non è che questo stabilisca un termine di confronto, è soltanto a livello di aspirazione. Riuscissi a fare l'organzino come lo fanno i piemontesi, questo qui si pensava in Francia nel 700, insomma, ecco. Quindi il discorso è un discorso limitato a questo tipo. Quando poi non c'è più, come dire, il guscio protettivo della corporazione che è la depositaria di questi tipi di procedimenti e quindi sono più o meno a disposizione di tutti, e allora si procede ciascuna famiglia per conto suo e sono i libri come quelli della Volpaia di cui parlavo stamattina. Allora, questione del progresso. La categoria del progresso, ma è un discorso che ieri è andato molto per le lunghe all'università. No, non era quello. Volevo dire che effettivamente uno dei punti sui quali ci si immediatamente viene centrata l'attenzione, viene suscitato l'interesse. Per quale motivo ho detto che a me sembrano false quei tipi di storie e non ho detto un termine che sarebbe stato necessario complemento, cioè il fatto che in situazioni del genere, io credo, per la specificità, proprio che è una caratteristica essenziale del soggetto, che tutto sommato si può procedere soltanto per microstoria e non per macrostoria. Cioè, ecco. Magari non proprio micro, ma in molti casi, data anche la natura delle fonti di informazione, spesso si è in situazioni che basta spostarsi di 10 km perché il conto non torna più. L'altra considerazione che mi fa essere restio all'uso di questa categoria è che è una categoria che noi finiamo con riferire alla storia dell'umanità, anziché e quindi questo torna all'altro discorso, anche perché purtroppo questo tipo di questo termine ha una certa connotazione, che è quella, come dire, positiva, connaturata. Questo tipo di discorso abbiamo visto anche nel caso della siderurgia. In realtà tante volte quella che sembra che può essere un'innovazione, che è un'innovazione, un progresso, diciamo, tra virgolette, in una certa zona, in un'altra resta trascurata e ci sono anche delle buone ragioni e tecnologiche, e economiche, e di strutture sociali, produttive, disponibilità naturali, collocazioni, eccetera, che inducono a tralasciare questa innovazione. Siccome quella che viene fuori allora è la storia della tecnologia del Singer, che è il testo al quale tutti quanti ci rifacciamo, che però da questo punto di vista è per me estremamente negativo, perché è un po' come quelle storie della scienza dove ci sono tutte le vittorie, no? Questa specie di galleria dei grandi trionfi, mentre in realtà poi uno va a vedere e la storia della scienza è andata avanti peggio, è andata avanti indietro peggio di un ubriaco, il che crea poi quell'esigenza che è quella di fare le ricostruzioni razionali della storia della scienza. Si confonde la razionalità interna di una disciplina con quella che è la realtà stessa in cui quella disciplina viene prodotta. Aggiungo un'altra cosa, che per poter accertare effettivamente delle situazioni che permettano un'applicazione proficua di questa categoria, io ho l'impressione che dovremmo disporre di una massa di informazioni molto più ampia di quella che abbiamo. Siccome in sostanza non conosciamo nemmeno ancora la microstoria, io non ho il coraggio di adoperare degli strumenti che vanno al di là. Ieri lo schiera, sempre da bravo, ma ha trovato un bel compromesso, così a livello di confessione, per cui dice: tu tutto sommato dietro una specie di modellino tuo di quello che vuoi fare ce l'hai, e questo qui, anche se io non lo dico mai, in realtà ce lo so, qualche volta capita di dirlo, ma in questo caso è proprio viene fuori inconsciamente. Però ecco, quello ce l'ho, quello credo ce l'abbiamo tutti, perché sennò non si riesce a ragionare. E a questo punto, in questa condizione e in queste situazioni, è chiaro che direi che non si tratta nemmeno del rifiuto della categoria di progresso, si tratta dell'assoluta indifferenza di fronte a un problema di questo genere. Se io vado al di fuori della storia della scienza e della storia della tecnica, metto queste discipline correlate con altro, è chiaro che allora devo fare ricorso a determinate categorie che sono diverse. Direi, al momento, ecco perché prima parlavo dei rerum italicanum scriptoris stamattina, mentre gli storici della storia generale, la storia delle istituzioni, storia politica e storia militare, tutto sommato, hanno già i loro sacri testi, che sono queste fonti di informazioni rese disponibili in modo sistematico, la storia della scienza e della tecnica al momento deve ancora fare questo lavoro. In questa fase di individuazione della fonte, di raccolta delle fonti, di valorizzazione e studio delle fonti, il rischio di attaccarsi a una categoria come quella di progresso vorrebbe dire non porsi tutta una serie di problemi come quelli che ci siamo posti stamattina. Perché in sostanza sarebbero problemi che per me sono importanti, ma che visti in quella prospettiva sarebbero sostanzialmente irrilevanti, tutto sommato. Sì, io sono un po', non riesco a fare metodologo. Capisco, è una grossa carenza, ma non so, il personale forse qui prevale. Ecco, a me fa sempre terrore, perché io sono 30 anni che mi occupo di storia della scienza del Rinascimento, sono pieno di rispetto e di venerazione per quelli che scrivono la storia del Rinascimento. Io sul 99% di quello che c'è scritto di solito ho dei dubbi atroci. Quindi a questo punto è chiaro che mi automaticamente precludo quella che è la possibilità di discorsi più ampi. Ridotti a discorsi piccini, l'interesse per queste forme in cui strutturare una storia di più ampio respiro finisco per non averla. Io riconosco anch'io che è una mia mancanza, e ammiro e leggo e apprezzo quei libri di storia, per esempio generale, dove queste grosse prospettive ci sono. Anche questa è un po' la mia posizione, la giustificazione della mia posizione. Sì. Però vorrei che domani la tua dopo. No, adesso l'unico problema che rimaneva aperto era quello lì di un completamento quanto a documentazione non scritta, non so. Dovete vedere voi, perché poi. Perché il problema che io sono pienamente d'accordo sia sulla relazione con l'ideologia del progresso applicato ignorare. ma mi pare che una gran parte del comunicatore momento ce l'abbiamo un salto qualitativo dal punto di vista proprio anche della storia della scienza, da quello che ho visto, della tecnica e della tecnologia, e poi proprio nei primi anni del 500 e non per esempio tra il 1350 e il 1500. C'è questa informazione che si vuole essere, però il momento che sembra essere chiave è un periodo che, guarda caso, è anche un periodo di risveglio economico, è un periodo che per certi aspetti produce in molti ambienti trasformazioni strutturali, non in termini di rivoluzione, questo sono d'accordo anch'io, ma in termini di evoluzione, di crescita e non di sviluppo, che porta però a delle nuove esigenze e probabilmente a un'accelerazione di questo processo conoscitivo e divulgativo. Ora vi dico, insomma, è difficile sfuggire in una situazione di questo genere a una categoria che si è preso in termini settoriali certamente ingiusta, ma preso in termini, come dire, di visione globale di un processo di crescita è pur tuttavia una tentazione terribile. Questo è vero, ma difatti di solito anche se uno dice di no, poi ci si casca. Anche a livello di linguaggio a volte, no? Per cui magari il concetto uno riesce a tenerlo a bada, ma la spia viene fuori nel ricorso a certi termini, a certe collocazioni. E questo è il discorso che si faceva ancora ieri. In sostanza, quando noi parliamo di queste cose, io che ne parlo sono fatto in una certa maniera. Voi che per cortesia mi state a sentire, siete fatti nella stessa maniera. E volere o no, una delle connotazioni della storiografia, diciamo della storiografia tanto per intenderci questo modo di concepire le cose, chiamiamolo così, del mondo occidentale, è un riferimento, almeno dal 700 in poi, a una specie di costante categoria che è quella del progresso. A questo modo, lo si voglia o non lo si voglia, i discorsi sono sempre condizionati, diciamo, e in chi li fa e in chi li sente, anche se quello che li fa a volte non ci fa caso, quello che lo sente immediatamente lo traslittera, lo decodifica in termini di discorso relativo al progresso. Questo è ovvio, insomma. Quindi è un, così, una specie di sfida, è un rischio, è una necessità, non lo so. Va bene. Allora passiamo all'altra, ecco, vorrei aggiungere ancora una cosa che mi pare importante perché è una roba che ha una grande diffusione, che ha avuto un grande seguito e che forse meritava di essere trattata più ampiamente, ed è quella dei benedetti artigiani e il sorgere della scienza moderna. Ecco, questa qui è un po' un'invenzione. Se voi pigliate tutte le trattatistiche di macchine, tutti i testi artigianali che troviamo, non trovate mai sistematicamente nessun tentativo di generalizzare quelli che sono i risultati dell'attività dell'artigiano. Cioè quello che l'artigiano addita e nel suo quaderno di note dove è giustificabile e nel libro dove la situazione è meno giustificabile è la soluzione di un problema specifico contingente. Nemmeno un minimo di teorizzazione che vada al di là della soluzione del problema specifico non è quasi mai presente, o se è presente, è presente come riferimento, diciamo, di carattere storico, non come riferimento di carattere riassuntivo, di tentativo di generalizzazione. E ci sono infiniti disegni di Vericelli. All'artigiano del periodo rinascimentale non è mai venuto in mente che il Vericello messo così, il Vericello messo così, quello in cui asse verticale è maggiore di quello orizzontale o viceversa, sono sempre e soltanto la stessa cosa che ubbidisce allo stesso principio. C'è questo fatto delle soluzioni contingenti e di un certo desiderio intimo di far procedere il proprio discorso anche attraverso la categoria dello stupefacente, è un po' quella che io chiamo la tecnologia della fantasia, no? Queste creazioni di macchine, queste lunghe file di ruote dentate, magari di legno, che creerebbero attriti incredibili e mosse magari come i disegni del Branca da un caminetto che sta sopra uno scaldino di queste dimensioni qui con sopra dei crocieri, né si può parlare a quel livello di disegno che abbia valore di simbolo o roba di questo genere qui. Il disegno vorrebbe anche nella sua bruttezza, diciamo, essere realistico in un certo senso, e quindi il prodotto è un po', come dire, la manifestazione di una specie di fantasia che vorrebbe dimostrare quanto possa fare. Sono infiniti i casi che si possono addurre di macchine che non avrebbero mai funzionato. Anche tutta la produzione di Leonardo, nel 90% dei casi, aveva quantomeno bisogno del motore per riuscire a funzionare, il motore non ce l'aveva. È difficile a questo punto pensare che si possa dare quel termine, quel nome concreto di ingegnere a un'attività di questo genere, che è invece soltanto quella di una creazione fantastica. Tornando al problema storia, sorgere della scienza moderna e sorgere e attività artigianale, io la vedo invece da un altro punto di vista, perché contemporaneamente in questo periodo sorge anche un tentativo di ridurre, però non è più fatto dagli artigiani, è fatto da persone che hanno una notevole preparazione matematica, una notevole preparazione scientifica, ed è l'inizio della teorizzazione delle macchine semplici. Guidobaldo dal Monte nel 1577 pubblica il Mechanicorum Liber, che viene tradotto dal Pigafetta 3 o 4 anni dopo, dove si comincia a individuare alla base di tutti i meccanismi possibili la leva, il cuneo, il verricello, anche con certe osservazioni che fanno pensare che abbia capito che tutto sommato il verricello è una specie di leva. Quindi piuttosto in questa direzione, che è quella che porta ad Archimede, che in quella così di una generica aspirazione a sentire la propria attività manuale come una scienza, mi pare che stia la forma corretta per capire la scienza moderna, anche perché ricordiamoci, il discorso scientifico rinascimentale diventa veramente scientifico nel senso della rivoluzione scientifica che dicevamo di non adoperare, proprio in quanto in un certo senso riesce a rivendicare l'autonomia della scienza rispetto a quel tipo di discorso onnicomprensivo che è il discorso filosofico, in sostanza. Nel caso specifico il discorso teologico. La chiave per questa liberazione risiede nella matematica, ed è un discorso matematico anche questo che si sviluppa tutto nell'Italia settentrionale. Il discorso di certitudine mathematicarum è un'esercitazione tipica dei professori di filosofia dell'Università del Nord. Su questo discorso tipico, che riconosce uno stato di autonomia, una condizione di autonomia del discorso matematico rispetto ad altri discorsi, anche a livello dello strumento logico impiegato, è fondata la prima coscienza, che oppone, in un libricino che pubblicai io tanti anni fa, che mai nessuno aveva letto perché ne esistevano soltanto un paio di copie al mondo, che tutti dicevano di aver letto, invece leggevano solo di assunto, nella Demonstratio Proportionum Motum Localium contro Aristotele Metonnes Philosophos del Benedetti, un altro che sta a Venezia, e che pubblica sta roba nel 1533, allievo di Tartaglia, non per nulla, c'è il primo tentativo che io conosca di contrapporre all'affermazione del filosofo, all'affermazione di Aristotele, le conclusioni di Archimede, le conclusioni di Apollonio, le conclusioni di Euclide. È chiaro che non si contraddice il discorso totale di Aristotele in questa forma, ma si vanno a prendere particolari punti. Aristotele dice che non può esistere, per ragioni geometriche, il moto che sia l'insieme di moto retto e moto curvo, cioè di moto naturale e di moto violento. Questo è sbagliato, perché i matematici hanno dimostrato che è possibile rettificare le curve. E lì giù, un pezzo delle coniche di Apollonio dove si dimostra la rettifica della curva. In questo momento è il punto cruciale in cui si vede il cambiamento delle autorità. L'autorità che prima reggeva tutto il discorso e che era in sostanza l'autorità aristotelico, scolastico, teologico, filosofico, religiosa, quello che vogliamo, entra in questo momento in crisi. Si comincia a capire che la matematica è un discorso tutto sommato libero dal resto dei discorsi. Galileo ha pagine bellissime a questo proposito, ma hanno letto tutti, sull'intendere estensive e intensive, dove la necessità delle conclusioni geometriche è tale per tutti che l'uomo e Dio sono nella stessa condizione, di fronte al discorso matematico. La certezza che l'uomo raggiunge nel discorso matematico è pari a quella divina, con una differenza, che Dio per intuito in un atto solo conosce tutta la matematica, l'uomo invece deve seguire passaggio per passaggio la dimostrazione. L'altro discorso che permette di passare da questa certezza delle matematiche alla certezza della conoscenza naturale, che è la base della scienza, delle origini della scienza moderna, è l'aver riconosciuto, l'aver ripreso, e anche questo lo fa Galileo, il discorso di un rigido determinismo naturalistico. La natura opera sempre nella stessa maniera, e qui il discorso della ricerca del normale, in natura e non più dei ludi di natura, degli scherzi di natura. La scienza si fa allora se la natura opera sempre costantemente e secondo un vincolo rigido di determinismo causale, si fa studiando le apparenze normali di ciò che accade in natura. Questo determinismo rigido della natura ha il suo corrispettivo a livello conoscitivo nel determinismo delle matematiche. Il giorno in cui noi riusciremo a sussumere il contenuto della conoscenza, comunque avviata attraverso il metodo sperimentale, verrà, in modo da poter dominare i fatti naturali con il discorso matematico, in quel momento noi avremo una scienza certa e autonoma rispetto a quella che è la tradizione filosofica. Tutto questo tipo di discorso articolatissimo lo fa Galileo. Comincia con la riscoperta di Archimede, che era nota nel Medioevo, ma che non ha mai funzionato, perché inserito nel discorso filosofico, il principio di Archimede diventava la teoria del ritorno ai luoghi naturali. Quindi non più un discorso quantitativo, ma un discorso qualitativo. È chiaro, in questa posizione, quello che può giovare di origine artigiana, se la mia ricostruzione così poi strizzata in questo modo ha un senso, è casomai una maggiore confidenza con la natura. Non certo, è proprio confidenza così a livello di modo d'essere, non certo perché l'operare dell'artigiano abbia degli aspetti di carattere sperimentale. La distinzione tra la conoscenza per esperienza e quindi per procedere empirico e la distinzione tra esperimento e quindi per procedere col metodo sperimentale e sono ovviamente due cose che vanno mantenute distinte. Chiudo. Era una cosa comunque importante perché l'origine di questa posizione può anche essere datata. È una lettera di Engels a Starkenburg che è del 1847, cioè in piena rivoluzione industriale, dove si dice che i lavoratori hanno una gran parte nella formazione, eccetera. È chiaro che il discorso ha un senso nel mondo della rivoluzione industriale, non ha un senso nel mondo dell'artigianato cinquecentesco. Va bene. Allora, si diceva il problema della documentazione non scritta. Lo storico della tecnica, noi stamattina abbiamo fatto la storia delle tecniche dotte, ricordiamocelo, che per la loro rilevanza economica, eccetera, hanno avuto l'onore della trattazione, ma c'è un'infinità di attività che non ha mai avuto l'onore della trattazione, che però rimane senz'altro testimoniato, non ha mai avuto l'onore della trattazione scritta, rimane senz'altro testimoniato da forme indirette e da quella che è comunemente chiamata la documentazione materiale. Questa documentazione materiale è una documentazione che si comincia a valorizzare da tempi relativamente brevi. Un grande impulso con significato anche polemico è venuto appunto dall'elevazione a livello accademico della storia della cultura materiale. I polacchi con Majewski hanno fondato l'Istituto di Storia della Cultura Materiale dell'Accademia Polacca delle Scienze nel 1953. Con una costituzione che io mi sono segnato qui per non sbagliarmi, che è molto indicativa. Il gruppo, l'istituto era costituito dagli archeologi della Polonia e da archeologi della preistoria, da archeologi della regione mediterranea, all'aggancio con la cultura classica, dagli etnografi e dagli storici dell'economia. Lo scopo era quello di studiare l'aspetto tecnico dell'esistenza materiale. Questo cosa significava? L'aspetto tecnico dei rapporti sociali di produzione, prescindendo dalla componente economica. Fu la prima di una serie di autocastrazioni che a un certo punto dimostrò che in realtà il pure semplice documento materiale anche trattato con le tecniche più raffinate, dice poco. L'autocritica l'ha fatta Gistols in un articolo, in una polemica con Brodel, che è comparso sulle Annali qualche anno fa, no? Comunque, questo apprezzamento della documentazione materiale ha avuto, direi, un grande significato per lo storico della tecnica e per una serie di altre persone che operano in questo campo. A questo livello non vorrei stare a discutere che cosa significa avere un manufatto o avere gli strumenti per la produzione. Significa poter penetrare nel vivo della produzione stessa e avere una possibilità di lettura di un tipo di testimonianza che o è scomparso per quanto riguarda le fonti scritte o integra le stesse fonti scritte. Il fatto che la documentazione materiale, quando è possibile, ovvio, debba essere presa a integrazione delle fonti scritte, quando non c'è altro, è chiaro, solo per quella, è il risultato a cui sono giunti anche gli amici polacchi. Quindi in realtà io mi ero segnato anche difatti il passaggio ultimo definito da Gistol stesso nella rivista di storia della cultura materiale dice che oggetto della ricerca della storia della cultura materiale sono le condizioni dell'esistenza materiale degli uomini, specialmente poi vuol di tutto, in quanto sfera della loro attività. Scusate la traduzione, ma così ho fatto a fare al piccolo trotto senza perfezione. Cioè, in sostanza, abbiamo trasferito l'oggetto materiale alla storia della società in cui l'oggetto è stato prodotto ed è stato utilizzato. L'economia che era stata cacciata fuori non solo rientra come uno dei modi di considerare quella stessa società, ma ci entra anche la storia sociale e così via. Dicevo che è importante questa storia della cultura materiale perché ha dato dignità all'oggetto e ha dato dignità all'oggetto di solito brutto, perché l'archeologia, e torniamo all'altro discorso che riguarda la storia della documentazione materiale, ci aveva abituato sì allo studio degli oggetti, ma sempre allo studio degli oggetti o belli o monumentali. Ci avevano anche insegnato che l'archeologia è tout court, l'archeologia classica, fino a pochissimo tempo fa non è mai esistita un'altra archeologia, ma l'archeologia, è chiaro, erano il grande mondo della civiltà greca o quello della civiltà latina. Ora, abbiamo imparato da questa disciplina che ha fatto molto rumore, anche perché ha suscitato effettivamente un vespaio di contraddizioni all'interno della storiografia tradizionale, è stato un tentativo di risposta all'esigenza, che è tutto sommato relativamente recente, di fare la storia delle culture subalterne. D'accordo che con l'archeologia si documentano anche i ricchi, stranamente anche lì la maggior parte hanno lasciato più documentazione ai ricchi dei poveri, sia come qualità sia anche come quantità, nonostante che i poveri siano in numero maggiore, la loro documentazione è sempre più omogenea, l'altra è più variegata. Quindi è stato effettivamente un momento di estrema importanza per la revisione di alcune categorie storiografiche ed è stato anche un appoggio non indifferente agli studi di microstoria. È un discorso che si completa, perché è chiaro che la storia della cultura materiale è una storia che si fa su determinati reperti, che sono reperti relativi a un certo periodo in un determinato luogo. Ha anche indicato una specie di microstoria che è una storia diacronica. La storia della cultura materiale, condotta secondo i criteri della paleontologia e della paleotnologia, ha insegnato all'archeologo, anche classico, che quando si fa uno scavo non si butta via niente. Prima non si facevano degli scavi, si facevano degli scassi distruttivi, si facevano gli scavi, si faceva il pozzo alla ricerca del tesoro. Se si trovava il Laocoonte o si trovava, che so, il torso dell'Apollo del Belvedere, allora andava tutto bene, se no si ritappava il buco e si andava a casa, il resto non interessava. Il discorso invece che viene portato, questa storia della cultura materiale, che quindi non ha una connotazione di natura estetica, non è vincolata a un giudizio sul bello, non è vincolata a un giudizio positivo o negativo di moralismo storico su determinati periodi, ma è in realtà semplicemente la presa d'atto dell'esistenza di un determinato oggetto in una certa situazione, ripeto, ha avuto lo scopo di aprire gli occhi nel mondo degli storici, per cui ricordiamoci, da poco tempo in qua l'archeologo ha capito che fa lo storico oppure non combina assolutamente niente, questo qui è l'altro fatto importante che riguarda gli archeologi, spiegando e dimostrando come quella che sembrava prima semplicemente microstoria relativa a un determinato momento e a un determinato luogo diventa anche la possibilità di leggere l'evoluzione storica di un sito, evoluzione in senso positivo o negativo fa nulla, a partire dalla situazione attuale e andando indietro fino a quando si vuole, fino ai graniti se vogliamo. Ecco. La lettura, quindi l'introduzione in mezzo ai criteri dello storico della stratigrafia, l'abitudine a valorizzare tutto quello che si trova. Oggi niente come la spazzatura di un sito abitato è ricca di informazioni per lo storico. Cosa riescono a fare i paleobotanici è una cosa incredibile. Gli date un cucchiaino di polvere e riescono a tirar fuori una foresta intera, gli creano un paesaggio. Quindi questa lezione profondissima sulla valutazione, valorizzazione di un altro tipo di documento. L'errore fu, ripeto, di pensare che questo documento potesse essere o totalmente sostitutivo del documento scritto, chiaro, quando non c'è altro se non opera questo, è ovvio, oppure che potesse, in alternativa al documento scritto, produrre una storiografia nuova. La coscienza critica ha dimostrato che questo secondo risultato e anche il primo sono dubbi, che però da questo tipo di ricerca sia venuta una storiografia nuova e una storia nuova in molti casi, questo è innegabile. Però voglio dire non perché c'era la documentazione materiale, ma perché all'attenzione dello storico veniva portato un'altra documentazione. Questo che io mi sforzo sempre di mettere in luce. Era un'altra documentazione, era come trovare altri 10 kg di documenti su di un determinato fatto. È chiaro che i documenti non erano scritti, erano documenti di carattere materiale. Lo strumento dello storico a questo punto cambia e non è più soltanto la paleografia, la critica del testo, la critica delle fonti, quello che volete, ma diventa anche il problema delle analisi di carattere chimico, di carattere fisico, di carattere spettroscopico e così via. Si ricordava a pranzo la storia dei fonditori di campane e tutti quanti dicono di metterci l'argento. Poi andate a fare l'analisi delle campane superstiti, si fa l'archeologia anche di quello che è fuori dal terreno, eh? L'argento dentro le campane non c'è mai, e significa semplicemente che se lo fregavano i fonditori. Cioè ci sono anche questi modi, queste piccole verità che si possono accertare soltanto attraverso la presenza. Ora, di solito la documentazione storica tradizionale, soltanto in tempi recenti, fornisce per i procedimenti tecnici, per esempio, dei dati quantitativi. Ancora in agricola e in biringuccio le notizie per esempio relative ai forni di fusione sono molto scarse. Noi oggi siamo in grado, avendo ritrovato dei resti di fusione, di stabilire grosso modo quali erano. È un procedimento che è noto alla paleontologia, Cuvier diceva datemi l'ossicino e io vi ricostruisco tutto il bestione per grosso che sia. Non dico che oggi noi siamo arrivati a questi livelli di perfezione, però voglio dire da un elemento di un processo di produzione tante volte si possono ricavare delle serie di informazioni che possono contribuire a chiarire tutto il processo di produzione. È chiaro che l'uso della ceramica, un pezzetto di ceramica ci indica, ci può indicare per esempio a che temperatura è stata cotta. Il fatto che sia stata cotta a una determinata temperatura ci può far capire di che tipo di forno si trattava in quel momento. La presenza nel vetro di determinati elementi ci può indicare se, che so, per ottenere l'effetto di sbiancatura che si ottiene di solito con la soda, avevano fatto ricorso all'uso di felci, all'uso di ceneri, da dove provenivano queste felci, da dove provenivano queste ceneri. Il legname usato era un'essenza locale, la sabbia usata era una sabbia locale o veniva portata da fuori, il che permette di studiare anche la presenza di determinati rapporti, lo studio degli avanzi e dei resti della produzione, pezzi rotti che si buttavano via e restano lì a pestarci sopra, perché ricordiamoci i pavimenti non c'erano, quindi anche se andava fino in terra nessuno si preoccupava di scopare in terra, anzi serviva casomai a migliorare la platea di calpestio. Danno per esempio la possibilità di sapere qual era la quantità prodotta, le dimensioni dei depositi di legna fanno danno un'idea di quale poteva essere il ciclo di produzione, cioè sono tutti elementi che noi di solito dalle carte non riusciremmo a ritrovare. In questo senso noi troviamo anche la possibilità di documentare, questo per quello che riguarda il passato, quindi il momento storico, delle attività materiali che o non hanno avuto una tradizione storica scritta, o se l'hanno avuta, l'hanno avuta incompleta. Lo stesso tipo di discorso si può fare per talune tecnologie che ancora oggi sopravvivono e che sono tecnologie che non hanno la tradizione scritta. Credo che non esista un trattato di lavorazione della pietra ollare o del sistema per costruire le latte d'arvese da mettere sul tetto. Tecnologie di questo genere si possono comprendere, si possono illustrare. Fonti per la tecnica per tecniche di questo genere si possono avere soltanto se noi andiamo direttamente al momento della produzione materiale dell'oggetto. E qui interviene l'altro tipo di fonte di informazione che è la storia orale, cioè la raccolta delle testimonianze orali. La raccolta delle testimonianze orali richiede, come l'uso delle fonti scritte e quella della documentazione materiale, un attento spirito critico per evitare, in realtà le risposte sono sempre condizionate, di far dire alla nostra fonte quello che noi vogliamo che ci dica. È una tecnica che chiunque si occupi un pochino di sondaggi, di opinione o roba del genere, sa quanto sia soggetta a possibilità di manipolazioni e quanto sia invece estremamente difficile porre delle domande che lasciano perfettamente libero il nostro interlocutore di rispondere sulla base di quello che sa. Ci sono tutte delle serie particolari di tecnologie, di sistemi di riscontro. È necessario di solito non penetrare dal di fuori in questo mondo, ma è necessario possibilmente essere all'interno, o quantomeno avere una sufficiente conoscenza dell'ambiente, dei mezzi di produzione, anche per poter fare le domande intelligenti. Il discorso che facevamo stamattina, che quando uno descrive una cosa, se non la sa fare lui, descrive quello che l'altro gli dice. E l'altro ovviamente misura l'importanza dell'informazione sulla base di quello che lui ritiene essenziale. Per cui talune cose che a lui sembrano ovvie possono venire, in caso di stamattina, pigliatela con le pinze, non andate a tirarla fuori con le mani. Insomma. Cose di questo genere sono uno dei rischi, riportate proprio al banale direi, sono tra i rischi maggiori che si incontrano al momento della raccolta della testimonianza orale. Naturalmente, oltre a raccoglierla in questo senso e già avviarla a livello di una possibile interpretazione e utilizzazione, c'è anche il fatto che la testimonianza, una volta raccolta, va fatta parlare. Come nel caso dell'archeologia, è evidente che non basta portare un pezzo di roba alla luce del sole per fare di quell'oggetto materiale un documento storico, così nel campo della raccolta delle testimonianze orali non basta fare delle domande, perché quelle domande diventino ipso facto un pezzettino di storia. Qui le tecnologie naturalmente si complicano e la morale che si può ricavare da tutto questo è che il mestiere diventa sempre più difficile, quindi sarà sempre più necessario o avere dei geni come Leonardo da Vinci, o se non è possibile trovare quelli lì, trovare qualche scienza così, anche quello è abbastanza difficile, però diventa certamente essenziale procedere a quello che è il lavoro di gruppo dove ciascuno abbia le sue specifiche preparazioni. Ed è anche necessario in questo caso completare quello che è l'excursus attraverso il reperto, non soltanto con le analisi, ma con i tentativi di ricostruzione dei procedimenti. Lo sporcarsi le mani, cercando di rifare quelli che gli altri avevano fatto, è uno dei sistemi primi per essere sicuro di non dire fesserie. Perché tante volte la teoria pare dare ragione, no? Dice dovrebbe essere così. Non ho mai trovato un fisico, anche di grido, che sia riuscito a spiegarmi perché le calamite, il minerale, il blocco di calamita, aumenti la sua potenza mettendoci attorno quattro cerchietti di ferro. È la cosa che ha fatto impazzire mezzo mondo tra la fine del 500 e la prima metà del 600. Le calamite armate, ci commerciava anche Galileo con il Granduca, ci commerciava Gilbert, ci commerciavano tutte le raccolte, no? Trovate sti ovetti di calamita e con il loro bravo peso per far vedere quanto siano potenti. sarei il giorno in cui noi avessimo trovato semplicemente una descrizione di questo fenomeno, avessimo chiesto luci al nostro amico fisico, semplicemente non c'è nessuna ragione, quella è un'opinione. Qui il dubbio non sussiste perché abbiamo gli oggetti materiali che ci permettono di vedere come la calamita con l'armatura regga un certo peso, senza armatura non riesca a reggere quel peso. Quindi la necessità di intervenire operando, il discorso vale anche per la storia della scienza, Mazzolini ci potrebbe dire molto in proposito, però ancora più nel campo delle tecniche, nel campo delle tecniche primitive. Alla fine poi possiamo, avendo il manufatto antico e avendo il nostro manufatto ricostruito, procedere per esempio per campionature, per analisi confrontate, per vedere se effettivamente quello che noi crediamo sia una certa cosa, sia anche un'altra cosa. Ricordiamoci la differenza, per esempio, tra le ceramiche di Palissy tipo cinese e le ceramiche cinesi. L'analisi può dimostrarci che si tratta di sostanze diverse, in altri casi invece sostanze che sembrano diverse rivelano la stessa origine, magari un diverso tipo di trattamento. Quindi questa necessità del confronto è un po' quella, non l'uso dei numeri, ma questo tipo di discorso è quello che io penso possa avvicinare quello che tradizionalmente è il campo d'azione del letterato e quello che invece tradizionalmente è il campo d'azione dello scienziato. Benissimo. Io vorrei fare una domanda che in realtà ripropone i problemi in termini opposti a quelli che tu stai illustrato adesso, no? Quindi cioè da teorico, da non da uomo con le mani bianche, eccetera. E una domanda che vorrei coinvolgere un po' anche Beppe Olmi, cioè si rifà a quella polemica che tu stamattina hai giustamente fatto nei confronti di un certo atteggiamento dello storico estetizzante o dell'estetica di oggi che è attratto dal bel libro piuttosto che non da. Ma io adesso vorrei invece rovesciare il discorso. È vero o non è vero che nel Cinquecento colui che si pone a scrivere un libro tecnico o scientifico, o addirittura lo scienziato, ha il problema di trovare dei... illustratori. E meglio sono e meglio è. Cioè, io non so, ma allora lui ci ha spiegato che davanti c'è il problema di monopolizzare più che può i migliori pittori che c'è in giro. E ci ha anche dimostrato che di fatto lui è insoddisfatto della prestazione di certi pittori, no? Che aveva che aveva a disposizione mentre ambiva ad averne. Ecco. Cioè, questo allora determina due domande che vorrei fare. C'è indubbiamente in questo atteggiamento una parte di, come dire, genere letterale, sinteticamente, cioè di moda, di riflesso di una mentalità dominante, per cui la bella illustrazione è più piacevole, è più magari commerciabile, eccetera, eccetera, della brutta illustrazione. E questo è il primo aspetto. Ma mi sembrava di aver capito dagli studi di Olmi che ci fosse dell'altro, cioè che in realtà la bella illustrazione fosse più funzionale, no? Allo sviluppo della lezione scientifica, insomma, cioè la descrizione di quell'animale, di quell'oggetto, fatta con tutte le tecniche necessarie, che conosce solo il buon pittore, ma non può conoscere, che conosce peggio il cattivo pittore, è un fatto che oggettivamente aumenta, ecco, la crescita. Volevo fare questo. Allora dico, d'accordo che è colpa dei nostri sintetizzanti, ma mi chiedo in quanto ci sia anche una concolpa, un concorso di colpa, dei protagonisti, insomma. Sì. Sì, ecco, direi che però la cosa va forse precisata anche sotto un altro aspetto, che il disegno fatto dal pittore bravo, se vogliamo, è più realistico, è più fedele alla realtà. Cioè, quindi l'esigenza c'è, ma c'è anche questo. Ora, quando noi andiamo a cercare la nostra documentazione, rischiamo di accettare il lavoro fatto dal pittore e magari di dimenticare la minuta scarabocchiata dall'autore. Ora è chiaro che come quando si copia un codice ci si mettono gli errori, inevitabilmente quando tu fai la tua... Non facciamo il caso delle collezioni aldrovandiane dove ovviamente L'altro anni non credo facesse disegni di fantasia ricordandosi come aveva visto la bestia, ma probabilmente partiva dal disegno, diciamo, dal vero. Ma per esempio i legni che illustrano le lettere metalliche di Agricola, in molti casi sono evidentemente non dei ritratti di una certa situazione, ma sono delle situazioni ipotetiche che molto verosimilmente, o sulla base del testo e con la direzione dell'autore, il pittore ha dovuto immaginare e disegnare, oppure addirittura sulla, come dire, una specie di canovaccio illustrativo, iconografico fornito dall'autore, poi il pittore ha perfezionato mettendo a posto le prospettive e tutto il resto. Poi c'è un altro passaggio ancora, che è quello dal pittore all'incisore, specialmente quando si tratta di incisione su legno, è meno facile che colui che fa il disegno sia anche colui che esegue materialmente l'incisione. Anzi, è un artigianato raffinatissimo che per i lavori, per esempio, su pietra dura ancora fino a tutto l'Ottocento con le litografie. Non è il pittore che fa la pietra, soltanto con l'introduzione di mezzi chimici, di mezzi fotochimici, si passa direttamente dall'originale alla riproduzione e si fregano i collezionisti di stampe. Ma quindi il discorso è senz'altro vero, cioè la colpa è anche loro che hanno fatto delle illustrazioni belle e che soprattutto le illustrazioni belle attirano molto di più di quelle brutte. No, ma in che misura le illustrazioni belle sono anche state necessarie a un certo svolgimento dell'approfondimento della conoscenza? Beh, direi, ecco, in questo senso direi che bisogna distinguere fra illustrazione scientifica e illustrazione tecnica. L'illustrazione scientifica è di norma la riproduzione dal vero di una cosa abbastanza complicata. L'illustrazione tecnica già all'inizio, pensiamo ai taccuini di Villardo Necour, siamo al 1300, fine del 1200, inizio del 1300, hanno già raggiunto un livello di schematizzazione e di astrazione che per esempio nel disegno dal vero di un animale non riesce a farla. Tutti questi qui quando ti fanno il disegno dell'orologio non è affatto l'orologio, è una serie di circoli con dei numeri vicino che rappresentano le ruote, che rappresentano qual è che ingrana con un'altra e che è il numero dei denti, e il tutto finisce lì. Quindi a questo livello di schematizzazione è chiaro che il fatto che sia buono, il progresso non è dettato in sostanza dalla leggibilità estetica, ma dalla leggibilità pura e semplice del disegno, che anzi molte volte in questa sua stringatezza, in questa sua chiarezza, senza le complicazioni che deriverebbero dalla rappresentazione dei particolari, finisce di essere ancora più incisivo. È chiaro che una macchina, fammi vedendo, sono andata a finire. Una macchina schematizzata, per esempio, da Leonardo, o una macchina, un tornio da stampare che ce l'abbiamo tutti presenti, non quello più complicato, ma quello più semplice. E questo qui, con il foglio sotto, gli omini che girano, le gambettine ecco, direi che forse crea ancora più della confusione. Lo schema di una pompa sarebbe molto più chiaro se invece della torre con la fontanina, con la donnina, come la pupolona che c'è a Lucca, che dai seni sprizza fuori acqua nella vasca, eccetera, eccetera, si fosse dedicata un po' più d'attenzione a fare magari più semplicemente quella che è la struttura tecnica, la struttura proprio puramente, brutalmente meccanica del dispositivo. Invece vai a vedere qui, ecco, c'è tutta l'ornamentazione, non c'è una vitina che non abbia il suo fiorellino fatto sopra e via di questo passo. È chiaro che questo qui, io stamani dicevo, è forse il passaggio al gusto di una specie di manierismo o qualcosa del genere, insomma, ecco. E indubbiamente c'è anche questo problema, perché, ripeto, non so, questo qui è il Branca, sono fra le illustrazioni più semplici che si possono immaginare, però tutto sommato, nella loro bruttezza, sono più chiare queste qui che non quell'altra. Anche perché quando entra il gusto artistico cominciano a sorgere dei problemi di prospettiva, problemi proprio di disegnare le macchine come si vendono. Ora, di solito le macchine come si vedono non si capiscono, il disegno tecnico è comprensibile soltanto quando è un artefatto, ricordiamo l'Explosive View, adoperate tanto dai tecnici della Scientific American fino a tempi relativamente recenti, e dove ti faceva vedere tutti i pezzettini come andranno assieme. Anche Leonardo adopera spesso una tecnica, anche lui la sa far bene, e c'è la mano felice. Molti di questi qui tentano di fare qualche cosa del genere, certi disegni di tipo medievale sono veramente orrendi sotto questo aspetto, però riescono, una volta capito il discorso, ad essere perfettamente chiari. È evidente che di fronte a questo fatto la cosa che interessa, il girarrosto famoso che è autoregolante perché è mosso da una ventola che sta nella cappa del camino. La parte che interessa è la ventola nella cappa del camino, il sistema pignone-corona per far girare il girarrosto, punto e basta. Qui a metà ci hanno aggiunto un altro raccordo semplicemente per spostare l'asse di 10 cm, non cambia nulla ovviamente. Poi ci hanno messo dei piedi con tutti i grifoni, tutti laminati a foglioline, ci hanno messo addirittura una statua per tenere su lo spiedo del girarrosto dall'altra parte, una bimbetta con la minigonna che sta lì a guardare mentre si succhia il dito, un altro stupefatto dal vedere il miracolo del fuoco che brucia l'arrosto, che cuoce l'arrosto senza bruciarlo, pentole con tutti i coperchi in terra, lo spaccato non del dispositivo tecnico ma della struttura muraria della cappa del camino, cioè tutta una serie di informazioni di carattere accessorie che rendono certamente bello il disegno, ma poi in particolare tecnico è questo qui. Quindi certamente sì, però voglio dire, bisognerà forse distinguere tra il disegno di carattere tecnico e quello di carattere naturalistico. Sì, almeno fino al 500 e poi nel 600 incomincia anche a sentire l'anatomia, ma sicuramente c'è questa differenza ancora del 500, per cui anche il disegno scientifico c'è veramente l'unica cosa rivoluzionaria, non dico cose ignote, quello scientifico nell'anatomia è la figura, non tanto il testo, cioè Vesalio è rivoluzionario. Il testo dice altro delle volte da quello che la figura, cioè nel testo non si attenta poi a contraddire fino in fondo Galieno, ma c'è in realtà poi la figura. Sono un certo ventricolo. Il gusto estetico dice un po' anche lì, vuol dire che Kalkar mette i suoi sfondi dietro a questi cadaveri, queste casette che tutti parlano, tra di sfondi veneti, di piani, secondo me è in ordine, come era lui, vabbè, questo è un altro discorso. Ma così una cosa molto distinta. Che neanche dentro i legni di Agricola, che vive già in un ambiente dove la pittura ha un gusto del paesaggio più spiccato, dove lui diciamo ha una posizione anche sociale molto più elevata di quella del Biringuccio, è il borgomastro di Joachimsthal per quasi 20 anni, insomma, gran personaggio, eccetera, e le illustrazioni acquistano anche un sapore artistico, è famoso, lì ci sono quelli che stanno lavorando, c'è la moglie che arriva col boccale della birra, con la casettina sullo sfondo, con la finestra dove ci sono i due che si stanno a palpeggiare e sbaciucchiare, che ovviamente con la tecnica dell'arte mineraria non c'entra nulla. Però questi fatti certamente ci sono e rappresentano un omaggio al gusto e al momento in cui chiaramente, e lui stesso lo dice nella prefazione, credo di avere la fotocopia anche di quelle pagine lì, dite che ci ha speso un fracco di soldi per farle fare. Hoc autem munus susceptum ut propter multitudinem rerum non expleverim, certe explere conatus sum, nam in eo multum opere et laboris insumpsi, alique metiam sumptum impendi, etenim venas, instrumenta, vasa, canales, machinas, fornaces, non modo descripsi, sedetia, mercede, conduxi, pictores, adearum et figes exprimendas. Ne resque verbi significantur, ignote aut uius etatis hominibus, aut posteris percipiendi difficultatem afferant. Ut nobis non pauca vocabula ferre solent, que veteres, quia res erant omnibus note, nuda ab enodazione prodiderunt. Che è poi il discorso che si faceva prima circa l'opportunità sempre di corredare, di che è già chiaro a lui in sostanza, ecco. Comunque forse del gusto estetico aveva ragione Duda, insomma, Carlo Battisti, padre del libro scientifico illustrato, come iniziatore del libro d'arte, le figure si fanno anche per vendere, si rubano i pittori l'uno all'altro, cioè trovando su questa poesia, questo pittore che vende i suoi disegni degli altri, quindi si rifà lo stesso animale, qua si può più dei casini, insomma. Quindi c'era anche un motivo per tirare, che anche nell'illustrazione scientifica delle volte che andavo avanti, prendo per gli insetti, ma per quelle difficoltà della tecnica filografica, il testo che la figura in realtà si vede una macchina nera, se con Rame puoi andare che il rapporto con la materia già lavorare, ha lavorato molto più in finestra, Giovanni sto con legno e così l'animale grosso lo strategia in particolare. Io avrei una seconda domanda da fare, sempre però di questo tipo banale che è così circostante, insomma, no? Ed è questa. Nel campo della, diciamo così, storia delle istituzioni, della prassi politica, il Cinquecento è un periodo che è noto, anche se non proprio moltissimo, anche per il fatto che è l'epoca in cui c'è della gente, magari della gente che non fa di mestiere lo studioso di questi problemi qui, no? Che magari non fa neanche il pratico di questi mestieri qui, ma che vive, insomma, nel mondo, gente che è interessata evidentemente a svolgere anche a titolo personale un'opera di raccolta di notizie su come funziona il governo in un porto, come funziona in quell'altro, magari in modo non sistematico inizialmente, ma insomma c'è questa, scoprono dei fondi, delle raccolte incredibili di relazioni su questo qui, su quello là, su quella dieta, su come funziona il principio, eccetera, eccetera. Ora, a prima vista, io non è che abbia studiato il problema professo, ma certamente a prima vista sembrerebbe che queste raccolte non avessero sempre e comunque un interesse applicativo, insomma, no? Ma fossero proprio il segno, ecco, ma è una curiosità però non nel senso generico come lo vediamo noi oggi. Cioè, esperienza evidentemente un'esigenza, una mentalità che si andava formando che aveva il problema di raccogliere un materiale utile per una comparazione, onde poi dopo, per una classificazione, per una comparazione, onde poter arrivare, immagino io, a una forma di comprensione più larga. Più quello che volevo sapere io era se anche nel campo delle cose che riguardano il lavoro, insomma, no? La produzione, cioè anche nel campo delle tecniche o della tecnologia, si assiste a casi di questo genere. Se si sa che ci siano delle raccolte di questo tipo, cioè della gente, magari degli artigiani particolarmente evoluti, magari anche ricchi, magari così, ma magari anche acculturati, oppure padroni, non lo so, oppure gente comunque di testa, che abbia questo tipo di preoccupazione. Cioè se anche in quel campo lì, che a mio avviso è altrettanto in esplosione in questo periodo del campo politico-istituzionale, emerga una cosa di questo genere qui. E ci siano poi eventualmente anche dei trattati su questo punto, perché nel campo politico ci sono anche dei trattati, cioè la ragione di Stato in realtà, al di là dell'aspetto dottrinario che se la prende con Machiavelli, piuttosto che non se la prende con Machiavelli, che interessa fino a un certo punto, che però è quello che hanno studiato sempre tutti, in realtà la ragione di Stato si fonda poi dopo su queste grosse analisi, no? Cioè la causa della grandezza e della decadenza delle città, questo è quello che interessa. Ecco, in campo lì c'è qualcosa di analogo o... Ma dunque, senti, sotto un certo aspetto si può dire di sì, e sotto un altro si può dire di no, in questo senso. Anzitutto, diciamo, si può fare forse un parallelo anche col campo scientifico, la raccolta di oggetti naturali, che va verso il normale e non la normale, il discorso che si faceva prima. Quindi non si raccoglie più soltanto il vitello con due teste, ma si raccoglie anche il vitello normale. In sostanza, libri come questo qui di Agricola e quelli della biotecnia di Biringuccio sono delle sistemazioni di conoscenze. Non è che siano, come dire, prodotte unitariamente, sono semplicemente ordinate unitariamente. In certe collezioni di carattere monografico dove tu trovi un filo, un ordine di un discorso. Però ricordiamoci che in questo stesso periodo il Giovanni Arturo Rossetti del Plitto che avevo ricordato, o dell'arte dei tintori, come si insegna l'arte di tingere sete, bambasi e tutto il resto, non è nient'altro che la raccolta delle ricette in uso nell'arte tintoria. Il che è ovvio che non è. E questo qui era un provisionato dell'arsenale. Cosa siano i provisionati dell'arsenale non si riesce a capire, perché non erano come sembra a prima vista dei pensionati come li pensiamo noi, ma era della gente che riceveva senz'altro, stante il termine, dei soldi dell'arsenale di Venezia, però quale fosse la sua funzione non si sa. Lui ricorda l'introduzione di aver girato mezzo mondo, di aver appreso queste conoscenze un po' dappertutto, e dice così: io adesso le raccolgo, le espongo qui, approfitto dei buoni uomini, eccetera. Nello stesso anno pubblico un altro libro che da questo punto di vista forse è ancora più interessante, era ristampato nel Ripozza qualche anno fa, e sui segreti dell'arte della profumeria. Ed è la prima volta che, credo sia la prima volta che compare nella raccolta il termine di segreti. Questo qui è un volume, piccolino, che era il sedicesimo, però di questa altezza qui, con alcune centinaia di ricette che certamente non sono i risultati, anche per i materiali adoperati, non sono i risultati, diciamo, di una certa zona come delle metalliche di Agricola e la descrizione dei procedimenti tecnici siderurgici presenti nella zona di Joachim Stahl, Freiberg, eccetera, intorno alla metà del 500, prima metà del 500. Sono invece un risultato di una ricerca, direi sistematica, perché tante ricette così non sono poche, che vengono accumulate sistematicamente, direi proprio per curiosità, in quel senso in cui si diceva prima. Poi vengono date fuori, mentre è chiaro, il discorso politico permette di fare magari un discorso unitario, qui tutto al più di tentativo di unificazione, c'è soltanto le quattro pagine del proemio, che sono un inno alla bellezza delle donne, che poi sia vero o non sia vero, che lui si sia andato raccogliendo per anni tutta sta roba, semplicemente se pensava di far belle tutte le donne, cosa encomiabile ovviamente, ma non so proprio se si possa addurre come giustificazione reale. Qualche anno dopo comincia una serie diffusissima di una pubblicazione che durerà fino a tutto il fino a metà del Settecento, che sono i segreti di Alessio Piemontese, che hanno avuto una sfilza di edizioni che non finiscono più, dove non c'è soltanto l'arte della cosmetica, ma ci trovi qualsiasi cosa immaginabile possibile, che sono le tante annotazioni che trovi in altri libri di ricette, cioè questa tradizione, ripeto. Non mi pare che ci sia questo sforzo di unificazione che puoi trovare in trattati come quello di Agricolo, come quello di Biringuccio, che hanno un loro discorso. Però quest'ansia di conoscere, di raccogliere, spesso poi di rivomitare dentro il libro tutte le loro schede, spesso senza capo né coda, messe lì proprio semplicemente perché me l'hanno dette, magari non accorgendosi che si tratta della stessa ricetta, semplicemente perché di due provenienze diverse dove i componenti hanno denominazioni diverse, e sono anche cose che succedono, quindi questa esigenza di conoscere e di raccogliere certamente c'è. C'è un'altra cosa interessante, questo uso del termine segreto, che comincia non è un termine evidentemente solo, cioè c'è anche lì, cioè i trattati più importanti di scienza della politica, partire dalla politica del Seicento, sono trattati che trattano dei segreti dei pubblici, no? Quindi questo problema, proprio la struttura del segreto, no? Come paradossalmente, insomma, no? Come momento dialettico di un passaggio dal privato al pubblico, capisci? Cioè, il segreto diventa la consapevolezza del fatto che una conoscenza che tu hai, te stesso oppure la tua famiglia, leggi i libri eccetera, ecco, in realtà ha una rilevanza che va al di là della tua sfera personale o della tua famiglia o della tua dinastia, e questo qui è il momento in cui tu c'è ancora la contraddizione tra la dimensione medievale, diciamo così, e la dimensione invece futura pubblica del valore comune, non so come dire, dell'utilità, se vogliamo, eccetera, eccetera. E lì ci si difende, ma in realtà è proprio la grande non ha più senso. Cioè la concentrazione sul problema del segreto è dare il sintomo, la spia del fatto che a un certo punto c'è qualcosa da difendere, ma comincerà a difendere più di tanto, che di lì a poco comincerà invece una nuova generazione, insomma, che è quella in cui che rileva è, diciamo, l'utilità pubblica, tra virgolette, che poi in realtà non lo è, che poi dopo è il meccanismo del privilegio dei brevetti o comunque dell'intervento dello Stato a regolamentare il patrimonio conoscitivo. Quindi anche in questo senso, indubbiamente, mi sembra, adesso mi interessa questo aspetto qui, in questo momento, pur avendo apprezzato anche tutti gli aspetti di... Ma questo è vero, perché c'è addirittura qualcuno che all'inizio, nell'introduzione, lo dice. Dice, queste sono cose nascoste, che io vi rendo comuni, vi rendo note a tutti, perché tutti possiate trarne beneficio, di solito in termini economici, no? Dice, perché vi ricorderete quando fu scoperta la miniera d'argento e tutti quelli che ci andarono e la seppero sfruttare tornavano a casa ricchi, insomma. di questo discorso. È un discorso che ricorre normalmente e che lo trovi comunque anche quando stranamente si comincia a stampare i libri d'alchimia, dove la contraddizione è ancora più palese, no? Sì. È quella che è la tipica arte del segreto e che continua ad ammantarsi di tutto un rituale, che è un rituale che resterà sempre individuale, mai collettivo, però si sente il desiderio appunto di partecipare. Ma questo è bellissimo. Bene. Abbiamo ancora qualche pezzo di legno da buttare sul rogo che abbiamo sottoposto Maccagni. Eccolo là. Una piccola domanda sulla diffusione delle tecniche in città come ad esempio Faenza, dove non c'erano 234 mestieri, o forse ce n'erano meno 234, comunque sono di fatto che a spiegare la nostra popolazione aveva sempre solo nel settore ceramico. I segreti rimanevano all'interno delle famiglie o si può ipotizzare un segreto dentro le mura? Beh, direi. Certo. Sì, ma indubbiamente quando un'attività diventa preminente, io credo che non si tratti più di famiglia. Se la produzione non è omogenea, non la si vende. Quindi vuol dire che il segreto in sostanza non c'è, o se c'è, c'è il segreto cittadino. È quello che succede a Venezia con i vetrai, insomma, ecco. Quindi c'è intervento, semmai, c'è intervento del potere che a bloccare, a impedire lo spionaggio. Non per nulla ancora oggi tutti i vetrai di Venezia stanno a Murano, una mia messi lì per altre ragioni, ma sempre non gli scappate, non si potete controllare come Dio comanda. Questa è la ragione, insomma. Ecco. Privilegi, forse credi che ancora nelle varie bacchette, dei sangoli, un qualcosa di questo. Sì, ma poi anche questi, in realtà questi segreti quando arriviamo a queste epoche qui, sono più o meno di dominio comune. Non dico di dominio comune nel senso più ampio, ma nell'ambito, cioè il passaggio qual è? Il passaggio è quello della corporazione, nella quale non ci sono segreti individuali. L'apprendistato avviene all'interno sotto l'egida della corporazione, con l'impegno del maestro di insegnare tutto quello che sa al famulo, all'apprendista, e con l'impegno dell'apprendista di non rivelare mai, se non a coloro che gli sono affidati dall'arte, i segreti del mestiere. È chiaro che non si tratta di segreti personali, ma si tratta di segreti che sono tutelati da questa organizzazione. E quindi sono dei segreti come i collettivi, insomma, ecco, all'interno del mestiere. Ora, quando nel mestiere esplode, vuol dire che la produzione è omogenea. E non è possibile avere un terzo della popolazione di Faenza che fa le ceramiche e pensare che siano solo in due che si sa come si facciano, ecco. Tanto più che non c'erano i forni di Vegwood, eccetera, ma c'erano dei sistemi di produzione tutto sommato artigianali. Quindi è chiaro che comunque il segreto ormai, diciamo che questi libri di famiglia riportano forse anche alcuni particolari della produzione che possono essere specifici. In realtà quasi mai si tratta di novità, perché se noi confrontiamo i contenuti di quelli che operano in un certo settore, più o meno il livello di conoscenze rimane lo stesso. Hanno magari qualche piccola caratteristica. I Della Volpaia inventano una specie di calendario lunare perpetuo che continuano a incidere sopra i loro strumenti, ecco, però è chiaro che una volta avevo inciso su 10 strumenti e averli venduti tutti spiegando a tutto che cos'era quello a fare lì, il segreto andava praticamente a farsi benedire, insomma. Difatti poi c'è il problema delle falsificazioni e tutto il resto. Direi che in quel momento il segreto è un fatto della comunità che si tutela attraverso delle istituzioni che prima erano le corporazioni, poi saranno proprio queste strutture di controllo del potere, come succede a Venezia, come succede per le tessiture in Piemonte, eccetera, che poi si evolveranno, per quel che riguarda il Piemonte, il caso della tessitura, il caso che forse conosco meglio, attraverso una specie di normativa, per cui lo Stato diventa il garante della qualità del prodotto, cioè le caratteristiche merceologiche del prodotto sono fissate per legge, addirittura i livelli della quantità che un uomo può lavorare in una giornata, perché l'aumento della produzione non va a scapito della qualità. Sono legislazioni che riguardano il periodo immediatamente pre-napoleonico, quindi in epoca anche abbastanza avanzata, ma questo discorso è ormai passato. E in sostanza spessissimo ci si accorge che non è tanto il segreto, l'artificio tecnico a far buona la produzione, ma l'accuratezza del lavoro. È una delle cose che noi spesso dimentichiamo e che riusciamo a cogliere soltanto quando, con quel procedimento che dicevo di sporcarsi le mani, andiamo a tentare di riprodurre quello che loro facevano e cogliamo tutta la difficoltà che sta nell'esecuzione tecnica materiale di quello stesso procedimento. Per cui diciamo il prodotto è migliore a livello di specializzazione. Naturalmente il numero degli specializzati aumenta, maggiore è il numero di coloro che ci si applicano. Sempre che tutto questo sia all'interno di quel tipo di tutela che dice no, un uomo non può lavorare più di tanto filato al giorno, e se no la qualità decade. Quindi io la vedrei più in questi termini che negli altri termini. Ci può essere qualche prodotto che continua questa storia del segreto, però dove lo troviamo? Non lo troviamo, direi, nel prodotto d'uso, che ha delle caratteristiche e che è fabbricato con dei materiali che sono abbastanza noti, abbastanza ovvi e poco hanno da nascondere. Lo troviamo appunto nell'arte cosmetica, nei farmacisti, che sono quelli che ti danno boccettina con dentro l'intruglio dove possono averci messo qualsiasi cosa, insomma, ecco. A questo punto forse il segreto resiste, ma nell'ambito di una manifattura dove la materia usata è quella che è, la maggior parte dei casi, quella che può sembrare una questione connessa a un determinato segreto per ottenere una certa produzione, è invece casomai una produzione molto accurata e eseguita con estrema attenzione per quelli che sono i dettagli tecnici proprio della produzione stessa. Albisola, tanto per trovare. Sì, sì, no, è normale. I bresciani che producono le armature e roba di questo genere, quelli, cos'è che sono famosissimi, una località qui di queste valli per fare i chiodi, ancora nell'Ottocento, insomma, ecco. Con le fruste. Farle qui, i coltelli, no? Sono ancora produzioni tipiche tutto sommato al giorno d'oggi. Va bene, io direi di lasciare, no, cioè, oh, secondo solo no. Una parte del giorno. Lasciate, no, lasciate in fondo perché mi sento non è in realtà una cosa della scienza, che toccava un problema di cui tu accennavi all'inizio. Parte appunto di non considerare il rinascimento come qualcosa di compatto e di Apollino, soprattutto di non considerarlo solo come il rinascimento fiorentino e toscano come tutto fatto. No? Ovviamente sono d'accordo, sono andato per il tipo di testi sui quali sono venuto su. Ecco, ma mi chiedevo perché di questo, cioè come mai ci si è dedicati soprattutto su Firenze, cioè al di là del fatto che nell'Ottocento c'è i toscani che si sono messi loro a studiare queste cose. Ecco, allora mi dicevo forse non è anche perché a Firenze, non solo, però soprattutto a Firenze, cioè l'umanesimo, diciamo così, è uno strumento anche, se sono degli studi del Barno e compagnia, è uno strumento di legittimazione politica in fin dei conti, cioè diventa un uomo del passato, sicuramente fine a se stesso, non solo, ma diventa anche l'ideologia delle nuove classi che stanno indubbiamente, indubbiamente è mescolato in modo tale con altri fatti, per cui l'attenzione portata a altri fatti ha aumentato l'interesse per questi. È chiaro che l'umanesimo veneziano, appunto, politico non significa niente, non cambia nulla. O anche quello milanese addirittura è sulla sponda, è sull'altra sponda, no? In dicembre c'è tutta la polemica e via di questo passo, questo qui, ma io proprio lo farei risalire a quella temperie culturale dell'Ottocento che si riconnette a fenomeni ancora più ampi. Ricordiamoci un po' lo sforzo di legittimare l'unità d'Italia attraverso la storia letteraria del De Sanctis. Cosa vuol dire? Vuol dire stabilire la centralità del mondo fiorentino attraverso il problema della lingua in quello che è il fenomeno dell'unità italiana. E tutti gli altri sono diventati così, roba di secondo ordine o di terzo ordine. E noi sta a fare, e dietro quello lì poi c'è venuto tutto il lavorio, ma c'è niente di più bestiale dell'attività della Crusca e dell'edizione dei testi ridotti a miglior lezione, per cui tutte le lingue sono state castrate e uniformate su quello che era il fiorentino, dove tutto il manoscritto va a pigliare l'edizione a stampa non torna manco per un accidente. E ricordiamoci che non solo c'è questa motivazione, ma c'è che obiettivamente l'ambiente fiorentino dell'Ottocento è stato più fertile, più attento alla storia fiorentina di altri ambienti. Andiamo a vedere Ottocento e primo Novecento, cioè la storia di Venezia, tolto il Pompeo Molmenti, e che ci trovi che abbia dato uno sguardo d'insieme alla storia di Venezia del Romani, che il Cesio non ha mai voluto far ristampare, che anche adesso che la ristampare non si riesce a comprarla. Ma insomma, direi, non si trova altro. E anche questa storia è sostanzialmente una storia politica, non è una storia che consideri degli altri aspetti. Ora, io voglio dire, il giorno in cui ci mettessimo coscienziosamente a studiare, per esempio, la storia dell'editoria veneziana, avremmo delle notevolissime sorprese. Il giorno in cui riuscissimo, per esempio, a valorizzare la sapienza idraulica dei magistrati delle acque di Venezia, avremmo ben altro che la solita questione della Val di Chiana tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, insomma, ecco. Ci sono questi fatti. Cosa sappiamo sulla storia marittima di Venezia? L'arsenale veneziano, da cui è uscita la potenza di Venezia, è uscito lo strumento della potenza di Venezia, è una macchina, è un tipo di produzione, direi una manifattura che esiste ben prima, addirittura forse quasi una produzione già a livello post-manifatturiero. Sappiamo che certe parti delle navi veneziane erano intercambiabili, quindi la questione che i gavitelli fatti in Inghilterra come la prima produzione di serie meriterebbe quasi forse di essere messa in discussione, però sono notizie che le trovi appunto sfogliazzando dei Molmenti, e che non è una cosa poi di quelle esilaranti, ecco, ci vorrebbe un po' più d'attenzione su questi fatti, mentre purtroppo l'attenzione degli storici per queste questioni è, cioè così anche gli storici hanno la loro, non soltanto gli storici dell'arte. Al campo per esempio della storia della cultura, cavaci il Renan e quegli studi sopra l'averoismo padovano, bisogna arrivare alla buon'anima del Nardi per trovare un altro che ha avuto il coraggio finalmente di far capire che era tutt'altro che della gente che leggeva Aristotele perché non sapeva fare altro. Quindi in realtà per me è mancato proprio un'attenzione, per cui oggi se noi facciamo il censimento storia quantitativa delle opere dedicate a Firenze e alla Toscana, poi c'è avuto anche questa fortuna che la loro arte è quella che ha fatto testo, no? Anche se ci sono dei buoni pittori anche altrove, quindi sono sempre rimasti a secondo ordine, valutati almeno come tali. Se noi facciamo proprio la storia quantitativa, la statistica delle opere dedicate a Firenze e alla Toscana, e facciamo la statistica delle opere dedicate a altre cose che non siano solo le violinate o le guide, e troviamo che ci sono delle differenze spaventose. E questo è il suo peso. Quindi non sono la sudditanza non è una sudditanza di fatto, ma è una sudditanza dovuta all'ignoranza dei fatti. È un po' la conclusione che spesso bisogna tirar fuori. Grazie molto davvero e all'anno prossimo.